Barisone è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non so se io e il dottor Mariano Amici riusciremo a convincere l'Italia, sarà molto difficile perché loro hanno già deciso la nostra morte. Dobbiamo continuare questo stato di tirannia e per continuare a portare avanti questa dittatura sanitaria abbiamo bisogno di prolungare lo stato di emergenza. Quando devono far vedere che aumentano i focolai, aumentano il numero dei tamponi. Giusto! E per cui aumenta il numero dei tamponi, conseguentemente aumentano i positivi. E allora arriva il Presidente del Consiglio con la mascherina in faccia. Cari italiani, dobbiamo continuare a sacrificarci. Io soffro per voi. Soffro per voi. La vaccinazione antinfluenzale ve la fanno ogni anno. E allora, se fosse un vaccino utile, perché ripeterlo ogni anno? Ditemelo voi. Perché non serve a niente, ma serve per ingrassare le case farmaceutiche. Esatto. Hanno rotto i coglioni, farmacie, banche, di andare a culo. Tu fa vaccino immediatamente, ya. Tu fa dunga, tu fa vaccino, ya. Giusto. Io, siccome dico la verità, non ho paura di nessuno. Non è ancora stato cacciato. Fermi tutti, scusate, non è ancora stato cacciato? Non sono ancora stato cacciato. Male. E si provassero a cacciarmi. Molto male. Ora, ora certo, io mi auguro che ascoltando certo, queste sue stronzate la devono cacciare. Paura. Paura di che? Bisogna avere paura di te come medico, altro che. Io a differenza vostra, sono ma quale paura? Ma la verità degli mortacci tua! Giusto! Ma la devono cacciare a pedate nel culo! Ma perché? Anche. Ma perché? A pedate nel culo! Voi sottovalutate il dramma che stiamo vivendo e ne pagherete le conseguenze. Dimmi, chiamami Crisanti. Chiamami Crisanti. E ne pagherete le conseguenze. Siete due negazionisti ormai. Siete due negazionisti. Spruffoni peraltro. Uno che dice voglio prendere il coronavirus per portarlo in radio, dico che come un fosse un ospite, secondo me è un coglione e la magistratura di tutto il mondo secondo me mi darà ragione. Giusto. In collegamento da Roma, David Parenzo, buonasera. Buonasera. Molto rapidamente, il Veneto teme un crollo, ospedali al limite, dice Zaia, e chiede la zona rossa fino al 6 gennaio. David Parenzo, il Sole 24 Ore, Roma. In collegamento da Padova, quasi in zona rossa per volere del suo governatore, Alberto Gottardo. Io dal Veneto butto la palla in campo avversario e dico: mi preoccuperei se fossi napoletano, il sangue di San Gennaro non si è sciolto. Vabbè, attenzione. Questo non aprirei, francamente, visti i precedenti, non aprirei altri fronti sul versante Napoli. Possiamo dire una cosa, segnalo, ragazzi. Segnalo in più che in questo momento sta andando in onda un grande evento. No, davvero questo. Giù. Che cosa che devi dire? Dimmi. Che sta presentando il suo libro Perché l'Italia amò Mussolini. E beh, certo. Stava parlando la signora Meloni. Ora io ho aperto sul Corriere.it, non voglio fare pubblicità a nessuno. L'ottimo Corriere.it di proprietà di un imprenditore lungimirante. Allora? E quando uno gira e vede Perché l'Italia Italia, mo Mussolini, e vede la faccia di Salvini e di Meloni. No, non c'è da cosa vuol dire? Basta, questo non è che devi andare avanti. Ma fa culo, se va. Tu vedi, no, ma è divertente, però interessante. Perché come mai ti viene subito una, non ti viene, che associazione ti viene? Ma va, cioè, aprilo, vai a vederlo. Qui per bellissimo, adesso c'è bellissimo. Solo una cosa: chi limita le libertà è questo governo. Cioè, se l'avesse fatto un governo di centrodestra, tu saresti qui ogni giorno a sbraitare, ragazzi, contro una Salvini. Pandemia. Ogni giorno la saresti qui, non è sovranista, a invocare la dittatura. Ma quale dittatura? Questi ma vogliono fare zona rossa a Natale fino al 7 gennaio, che non puoi casa, uscire Natale, da casa. Ma vaffanculo, io mi voglio casa, spostare. Natale. Ma dove vai? Voglio a Natale, spostarmi che porti il virus in da un giro. Comune dove all'altro. Vai? Sono cazzi miei. Ma cosa vai vado a fare? Che c'è una pandemia. Se l'avesse fatto un governo di centrodestra, tu saresti sulle barricate ogni giorno a invocare la dittatura, Mussolini e quant'altro. Questa è la realtà. Vergognati. Però ragazzi, tra tutti Zaia è della Lega. Purtroppo Zaia la zona rossa. Ma cosa dite? Purtroppo è così. Cosa dite? Zaia l'ha chiesta la zona rossa, no io, Zaia. Forse manco si è reso conto di cosa sta dicendo. Io sto con Zaia. Allora, ma il personaggio principale, ragazzi, resta sempre lui, Roberto Petrella da Teramo. Poi parleremo del sangue di San Gennaro, per carità. Parleremo tranquillamente del sangue di San Gennaro. Ti prego, non apriamo altri fronti. Di questa pratica medievale, diciamo la verità, è una roba medievale senza senso. Ma se la gente ci crede, che te ne frega? E sti cazzi, la gente crede anche. Ma perché posso dirti una cosa? Tra il sangue di San Gennaro e il divino Telma, tra il sangue di San Gennaro e il divino Telma, vergognati. Che differenza c'è tra il sangue di San Gennaro e la ma che scherzi? Ma cosa? Perché tu credi nel sangue di San Gennaro? Tu credi nello scioglimento del sangue di che peraltro non si è sciolto? Ma no, io appartengo a un'azienda semisolido. Io appartengo a un'altra azienda, intanto, quindi non difendo. Ma tu ci credi o no? Ci credo, no, non ci credo. Ma io sono di un'altra azienda. Credi nelle previsioni del divino Telma? Credi nelle previsioni del divino? È uguale, allora. Io non credo nelle previsioni del divino Telma e non credo in San Gennaro. Anzi, posso dirti la realtà: il divino Telma almeno esiste. Almeno esiste il sangue, non si sa manco se sia il sangue di San Gennaro. Ma per offendere milioni di fedeli. Ma per offendere che cosa? Ragazzi, dai, su. Ma secondo la tua azienda, in che anno siamo? Da quanti anni è stato creato il mondo? Esatto. No, questo però è un'altra grande questione. Da quanti anni è stato creato il mondo secondo la tua azienda? La creazione del mondo. La creazione del mondo. A proposito. No, ma un momento, c'è una spiegazione. Cioè, bisogna tagliare il cazzo ai bambini da punta quando hanno una settimana e il mondo c'ha 20.000 anni. Ma tu sei proprio scemo. No, secondo la tua azienda. No, ma una, io mica vivo nel 2021, ovviamente. Il 2020 sono quelli di San Gennaro. La realtà è questa: tra il divino Telma, tra quello che dice il divino Telma, tra credere alle cose che dice il divino Telma e credere al sangue di San Gennaro, ma cosa vuol è dire? La stessa cosa. Anzi, il divino Telma è più credibile. Posso dirti la verità: il divino Telma è più credibile. Ma come no? Ma come io c'è? Non lo direi. Se fossi conduttore di una trasmissione radiofonica, non lo direi. Ragazzi, ma il sangue di San Gennaro, ma stiamo scherzando? Stiamo dicendo vedere il sangue di San Gennaro. Dai, su. Ma cosa dai, vuol dire? Dai, ma perché? Grande sciagura, non si è sciolto. Sì, è non successo si è sciolto. Che abbiamo esposto alle 9 la reliquia, non si è sciolta, non dà segni di cedimento, non si ha segni di scioglimento. Non leghiamo che si sciolga o non si sciolga, che disastri o annunciate, sennò entriamo in una logica di superstizione che non è il caso assolutamente di frequentare. No, a Napoli, mai la superstizione a Napoli. No, scusami, perché invece disse toccandosi i coglioni sotto la tonaca, non sono superstizioso. Adesso, questo a dirlo, io ci terrei a dire che non condivido nulla di quello che è stato detto sinora, disse ma con un in particolare in ma in particolare chi ha parlato adesso si chiama Alberto Gottardo, lo specifichiamo, che abita a Padova, per è residente a Padova e qualunque il foro competente è quello di Padova. La persona che ha appena parlato si chiama, lo ripeto, Alberto Gottardo. E io ti faccio gli scongiuri alla napoletana. E io non condivido nulla di quello che ha detto, in particolare contro sia chiaro, no, lo dico senza ridere, che sia ben chiaro. Aggiungo ad adiuvandum che è lo stesso signore che giorni fa ha detto di volersi prendere il Covid per portarlo in radio come ospite. Se San Gennaro mi fa la grazia, se San Gennaro mi facesse questa grazia, lo stesso io dovrei essere testimone di come si guarisce dal Covid in diretta radiofonica. Stai invocando San Gennaro per farci per prenderti il Covid. Assolutamente. A chiusura del cerchio 18:43, quello che sta parlando adesso chiama sempre? Si chiama sempre Alberto Gottardo. Alberto Gottardo. Certo, grazie. Io ho il cazzo integro a differenza tua. Sì, sì, sì, ma non la testa però. Quello sì, vabbè, ma non la testa. Caso coincidono. Ma non la testa. Ma non la testa. Però ma posso non dirvi la testa. Una cosa, ragazzi. Ti sei circonciso la testa. Posso tu, questo ma perché spiega uno deve, molto. Perché uno deve credere? Scusate, perché uno dovrebbe credere? Ma perché uno deve dire prendo il coronavirus così lo porto in radio? Vabbè, ma come fosse Fedez? La punta del cazzo al suo figlio, per esempio. Ma questo per cosa? Uno, ma ancora questa storia. Anche questo ancora. È vero, anche ma uno, è vero. Ti, uno ti può chiedere, ma per quale motivo? Ma perché uno... ti hanno fatto tagliare il cazzo questo, quella anche volta? Questo è vero. Il 80%, anche questo. Farsi tagliare il cazzo e credere. Farsi tagliare il cazzo e credere al sangue di San Gennaro. La stessa cosa. Beh, direi proprio di no. Perché una è una misura anche igienica e fondamentale, l'altra per carità va benissimo. Ragazzi, su, il sangue di San Gennaro, ma non scherziamo, c'è gente che ancora crede al sangue di San Gennaro, che tu se sciogli, se muovi un attimo il coso, dai, se il sangue si scioglie, dai, su, Petrella, dai. Non so se io e il dottor Mariano Amici riusciremo a convincere l'Italia, sarà molto difficile perché loro hanno già deciso la nostra morte. La nostra morte. Hanno già deciso la nostra morte. Una galleria io... disposta. Il Covid non esiste, i virologi sparano stronzate. Perché state creando panico, paura, terrore televisivo per un virus che non esiste, il Covid-19. Non esiste, caro Bossetti, caro Galli, Bossetti, caro tutti voi virologi, microbiologi che andate in televisione, ognuno di voi spara cazzate, stronzate per crearci il panico. Comunque ragazzi, io lo vorrei abbracciare fortissimo, non so, sai. Ma il povero Bossetti è quello che carcere per lo suicidio della Gambirasi, o sbaglio? Sbagliato, sì, è lui. Ma tu ti rendi conto? Cioè ha confuso Bossetti con il professor Bassetti, il tuo amico di Genova. Ma, io. Ma no, ma ti dà l'idea di chi è sta gente che tu mandi in onda? È un medico cazzo. Questo, era. Ma era. Quale medico? Era, diciamo stupidaggini. L'hanno cacciato, l'hanno cacciato. Ma te credo, ma te credo. Le Margherite producono danni cerebrali irreversibili. Sono un crimine contro l'umanità. E voi che fate costringere la gente a portare la mascherina siete complici di questo crimine. Io non ho paura. Voleva dire le mascherine, in realtà ha detto le Margherite. Ma è anche dislessico, cazzo. Con la mascherina moriamo di anidride carbonica. Caro vice ministro della salute, no, lei non è vice ministro della salute, lei è vice ministro della malattia, perché con la mascherina ci costringe a morire di anidride carbonica. Però aspetta ragazzi, c'è una novità, c'è una novità, c'è una novità. Poi manderemo tutto Petrella, special Petrella. Io non pago le tasse, Parenzo, questo è importante. Io interessante, non pago. No, importante non per me, per la procura, per evidentemente. La procura. Ma frega niente. Caro signor Presidente del Consiglio, sì. Io non pago le tasse. Però, sì. Perché voi non mi fate lavorare per pagare le tasse. La zanzara è come la figa pelosa. Non puoi farne a meno. La zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Parenzo, sottospecie di nano da giardino, anche io ho fatto un altarino con le tue foto e le mie ragazze ci accendono dei bastoncini d'incenso. E sai che in Oriente l'incenso si usa solo per i morti. però è chiaro che la previsione, una valutazione molto ragionevole, fa pensare che quest'anno purtroppo e facilmente supereremo il confine dei 700.000 decessi complessivi, che è un valore preoccupante. Pensi che una cosa del genere in Italia era successa nel 1944, quindi l'ultima volta che siamo andati oltre i 700.000 morti eravamo nel pieno della seconda guerra mondiale, quindi chiaramente un anno purtroppo particolarmente sfortunato. Ma tu vedi che cosa ci racconto pure oggi? Questo? Blangiardo, quello dell'Istat. Ma tu, appunto, tu dai ragione a prescindere dalle persone, a parte che non si può fare un paragone del genere, e mi stupisco del presidente dell'Istat. Mi stupisco. Cosa vuol dire? C'erano metà degli abitanti di adesso, però. Che cazzo vuol dire? Esatto, c'è no, metà no, poco di più. Etica, ragazzi. Ma quello è il presidente dell'Istat. Che dice una cosa? Ma c'erano gli abitanti in Italia. Ma c'erano gli abitanti molto meno. C'erano metà. Che età media avevano? Dai. Ti sta dicendo che è ovvio che le condizioni di vita erano diverse. È una mistificazione. È ovvio che ad esempio è il contrario. L'aspettativa di vita negli anni del 48 era diversa l'Italia? Da quella ma di dai. Oggi quanti salame. Abitanti avevano, lo sai. Ovvio. Oggi l'aspettativa di vita è molto più alta che nel 48. No, nel 48 non è questo. Gli abitanti non si può fare nessun paragone di questo tipo. Mi stupisco. Arrivate che lo arrivate voi, con gli scienziati, i nuovi scienziati dell'Istat. No. Ragazzi, l'aspettativa di vita negli ma anni 40 che ha detto una puttanata era inferiore a quella ti di oggi all'esame di statistica che tu non hai cazzato. Dato perché sei fallito ma a giudicare ti bozzano con una ma roba del dire genere cazzate. Ti bozzano l'esame di statistica, stai spiegando tu al presidente dell'Istat ma no, ha detto una cazzata a differenza tua ha dato statistica ma sia uno che due stai spiegando tu ha detto una cazzata terroristica perché ti devono far credere che siamo come nel 44. No, ho detto una cazzata terroristica, non ho detto un terrorista. Non sono universi raffrontabili. Non sono universi raffrontabili. Scusami, ma di cosa cazzo parliamo? Negli anni 40 il tema è questo qua. La prospettiva di vita. Non puoi parlare di una cosa del genere. L'aspettativa di vita negli anni 40. Non hai mai studiato statistica. No, negli anni 40 l'aspettativa di vita. Giù tutte e due. Allora, il presidente del famoso CTS. CTS. Poi mi dovete spiegare il motivo per cui ancora non sappiamo e soprattutto non sanno gli operatori commerciali, i ristoranti, i bar, eccetera, eccetera, cosa, i negozi, cosa dovranno fare il 25, il 26, i giorni. Non lo sanno ancora perché questi buffoni, perché questi buffoni inauditi non ci sono spaccati al loro interno. Il governo è spaccato, avete capito? Il governo è diviso, il governo è diviso. Sentite Miozzo del CTS. Sulla reazione, che dice che bisogna inasprire le misure di controllo della pandemia, occhio agli spostamenti, le solite cose generiche. Non vuol dire un cazzo. Che dovrebbero essere note, dovrebbero essere non generiche. La reazione note dei vaccinati lo sapremo tra sei mesi. Ma come, scusa, la reazione dei vaccinati lo sapremo tra sei mesi? State l'impatto facendo una campagna. No, la reazione dei vaccinati, certo. Non l'impatto. Se la reazione funziona, quanto funziona, su quanti funziona. Andate, visto che c'è il 63%. Avete detto che è sicuri, volete vaccinare tutto. Non l'ho detto io, hanno detto, pure tu hai detto. E allora che cosa dici? La reazione dei vaccinati. Per la vaccinazione obbligatoria, obbligatoria per l'obbligo certo, di nel vaccino dubbio, certo, allora, perché male non può andare, se mai va solo bene, cioè se non ha effetti collaterali accelera l'immunità di gregge. Sentimi Ozzo. Noi abbiamo poca conoscenza della capacità immunitaria, non sappiamo, questa è la prima volta che si fa, non ci sono studi che sono stati fatti negli anni, nei mesi a venire, i primi vaccinati sono vaccinati di ieri, ecco, quale sarà la reazione di questo popolo di vaccinati sei mesi, lo vedremo fra sei mesi. Buono a sapersi questa cosa qua, ma come? Ma non vuol dire che non è sicuro però, scusa, no, stai facendo una stronzata, stai facendo passare un'informazione stupida. Io mi vaccino fra sei mesi. Scusami, sai? Ma scusami, ha detto che non lo sapremo, non sapremo ancora la reazione. Aspetta, ma perché lo stai zitto? È un altro tema. Lui ti sta dicendo un'altra cosa: che il vaccino sia sicuro, lo stanno certificando gli enti preposti. No, veramente non cioè l'ha detto, non l'hai sentito tu. Effetti collaterali. L'hai sentito tu, io non l'ho sentito. Effetti sulla immunità di gregge. Vespa. I ragazzi senza mascherina li spruzzerei con gli idranti. Con gli idranti, senti. Io sono un aperturista, ma sono rigorosissimo. Io gli assembramenti li disperderei con gli idranti. Se vedo i ragazzi senza mascherine che stanno insieme, io li spruzzerei, va bene? Un'idea così gli passa la voglia. Alessandro da Bologna. Vabbè. io sono incazzato nero, basta questo Covid, carozzi coglioni, che per la prima volta dopo 4 anni mi fa passare il Natale senza chiavare. Perché questi spostamenti del cazzo, questo è un suo, capito, è un suo problema, comuni, certamente. Regioni, io da 4 anni a questa parte passo Natale Santo Stefano con la mia fidelizzata, va bene? E quest'anno che cazzo faccio? Me lo dici, Giuseppe? Te ne stai a casa e ti guardi la televisione. Ha ragione Alessandro, oppure ci vai lo stesso e te ne fotti. Oppure ci vai lo stesso, ci va lo stesso e se è zona rossa lui e vuole stare con una puttana, potrà stare non con una puttana il 25. Necessità. Per lui non è una necessità, necessità. È da non solo è. E vuole passare il Natale, immagino. Immagino Davide, non rompere i coglioni. Non è una necessità, speriamo che ti multino, speriamo che ti multino. Ma non me ne frega niente la multa, piuttosto che passare il Natale con i parenti a rompermi i coglioni, io i coglioni ti faccio rompere dalla mia fidelizzata, va bene, a leccarle il buco del culo, va bene? Ma io se così. Uno, ma se quello gli piace fare questa roba qua, qual è il problema? Non ho capito, se lui beh, gli piace lo può fare, fare ma non, perché? Non durante il lockdown, è molto ma perché? Semplice, lo può ma fare perché? Quando gli ma pare, per quale ma motivo non... questo Covid ha rotto il cazzo, basta, non se ne può più. Ma se Alessandro, ma scusami un attimo, lui ha una fidelizzata, evidentemente ha una persona con cui va spesso, immagino, no? C'è una persona. Io da 4 anni che la conosco, quando voglia vado da lei, che vado, sono sicuro, perché so già insomma tutti. Perché questo qua, secondo quello che alcuni del governo vogliono fare, dal 24 al 7 gennaio non può andare dalla sua puttana perché di fiducia? Me lo dici perché? La gente, essendo in vacanza, ma perché siamo in più, una quindi per evitare questo. Ma perché non può andare dalla dittatura. Sua puttana di fiducia? Me lo dici, Davide? Dimmelo! Certo, per lui è una priorità! Che questo povero disgraziato, ma stiamo scherzando. Davide, a te non ti piace la figa, questa è la verità. Ma non è che le due cose vanno insieme, quelle che lei dice. Fermi tutti, ritorniamo. È il Covid della figa. La zanzara. Vai, se volete parlare al telefono con la zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Avanti Gottardone, non mollare un centimetro, il Covid è un problema di sanità pubblica, non di sanità privata. Parenzo, non capisci un cazzo. Forza Gottardo, non mollare un centimetro, siamo con te. Forza. Luciani, io per 330.000 euro mi faccio inculare, decoglionare e nel frattempo sorseggio anche una peripalle. Cavoli Parenzo, però dai, sei veramente uno scendiletto, sei veramente uno scendiletto, ma basta, basta. Io non indosso la mascherina perché ho bisogno del mio cervello. Ho bisogno del mio cervello per pensare. Ah, pure. Voglio avere la mente lucida quando ho a che fare con i miei pazienti. E qui quelli che non tolgono la mascherina non respirano più. 15 giorni fa una donna che portava la mascherina nell'effettuare l'inspirazione e l'espirazione per controllargli laddove fegato, rene, pancreas con le cisti non respirava più, stava svenendo, ed io con una mano gli ho tolto la mascherina e si è ripresa. Le grandi teorie di Roberto Petrella. Mamma le grandi mia. Teorie. Mamma è il numero uno, ragazzi. Stiamo parlando. Top e Pino e la dolce vita. Stiamo, appunto, stiamo parlando del grande teatro del Covid. Roberto Petrella. No, il teatro del Covid per questi medico, personaggi sputtanati. Medico, no, medico cacciato, credo, defenestrato dall'ordine dei medici di Teramo. Appunto. Lo vorrei abbracciare fortissimo, caro Petrella. Io ti amo, ti adoro, sì. Viva la libertà! Viva Petrella! No, ma libertà. Che criminale, ma dai! Dice delle su. Cose fuori da ogni scienza, praticamente. Dai, spero vi venga l'atrofia del cervello. Ma allora segui quello che dice Petrella. Spero visto vi che venga ti piace. No, ma non è che mi piace seguilo, lui per quello seguilo, che dice. Seguilo, mi piace, se mi piace il fatto di questo il teatro, delirio, ma senti, il delirio, ma senti teatro, la voce, pubblica, senti la voce. Il ma non rompete i coglioni con questa storia della salute pubblica. Repubblica. Qualcuno crede che dica delle cose vere e invece è stato cacciato dall'ordine. Se uno vuole rimanere alle parole che usi, caro Parenzo, ma coinvolgo anche Gottardo in questa augusta conversazione, che le parole, prendendo a pretesto la salute pubblica, sono state fatte le peggiori nefandezze nella storia. Chiaro, Gottardo, certo, lo sa bene. Certo, se uno prende, no, ad esempio la salute pubblica, vabbè, questo che dobbiamo perseguire la salute pubblica. Dei regimi, ma no, non solo dei regimi. Diciamo. Quando no, uno si mette in testa, David, di interpretare che cos'è la salute pubblica. Ma no, dicevano che i bianchi dovevano sedersi ai posti diversi dei neri perché i neri portavano le malattie. Per la salute pubblica. Per la salute è sempre stata usata. Scusa, mi pare che in democrazia, sul fatto che ci sia un problema legato alla pandemia, sia piuttosto condiviso dalle democrazie del mondo. No, ma noi stiamo parlando di chi invoca la salute pubblica. La salute pubblica. New York chiusa, zona rossa. Petrella. Allora non mi sembra che ci sia, senti, una dittatura. Posso dirti a New una York. Cosa? Hai rotto i coglioni e io non voglio stare qui a discutere. Quando venite messi in contraddizione, no, perché New York, quando tu dici Londra, la zona rossa, Londra, non è quella Londra, che dici tu, perché la Londra gente può chiusa, circolare. Hai rotto Londra, il cazzo. Non bloccano gli spostamenti. Non bloccano gli spostamenti. Londra gli spostamenti. Londra è chiusa. Non bloccano gli spostamenti chiuso. In Germania, se vuoi vai da Monaco di Baviera ad Amburgo come cazzo ti pare, e hai allora, capito o no? Qui invece allora ti bloccano. Ma ti vorrebbero il problema bloccare. È quello o la zona rossa, Petrella, ad esempio, che hanno fatto a Londra e a New York? Ancora ridaie. Non c'è è un la problema zona di salute rossa pubblica, no, non che è cos'è? La zona rossa come dici tu, è una follia quello che dici. Per quei paesi è già molto aver fatto un blocco di quel tipo. Andate a vedere, io non voglio dire Petrella, andate a vedere cosa fanno Petrella a New York e Londra. Petrella, Petrella. Ma io mi auguro che a voi avvenga subito l'atrofia dei vostri cervelli. Ma questo è un negazionista, perché ci state rovinando, coglione, avete già programmato la nostra morte, la nostra fine a partire dal primo di gennaio. Ma come si... Siete dei criminali, sostiene. Siete, sì, ma ricordiamo dei criminali. Che questo qui è stato cacciato dall'ordine, sì, è stato cacciato, dei medici. Sì, l'abbiamo già detto. È stato tu cacciato. Lo esalti, ma è stato cacciato dall'ordine dei medici questo qua. Ma io non lo sto esaltando. Io sto esaltando il suo, sì, il suo teatro dell'assurdo, la sua prosa. Beh, tu sei d'accordo in parte, no, con quello che dice lui, quindi. Assolutamente no. Assolutamente. Privare il cervello di un bambino o di un adolescente dell'ossigeno o limitarlo in qualche modo non solo è pericoloso per la loro salute, ma è assolutamente criminale, e voi siete dei criminali. Incredibile, che il signor Ruffini mi fa chiamare. Signor Paolo Ruffini mi fa chiamare dalle sue collaboratrici in diretta. Io sono in diretta alle 19:22. Caro Paolo, dai indicazione alle tue collaboratrici, che saranno sicuramente delle bravissime ragazze e saranno anche piacenti, immagino, ma questo è un dettaglio. No, questo non c'entra nulla. Tu mi per fai chiamare alle 19:22. Non lo gentile. So, mi fa chiamare alle 19:22. Lui, che è un malato della zanzara, sa benissimo che non deve farmi chiamare alle 19:22. No, rispondi e metti tutto in onda, che problemi ci sono? Ma che ne sai poi quelle che dicono, dai, su quelli o quello che dice, magari cioè, allora abbiamo dei, abbiamo degli scheletrucci nel mondo, ma non abbiamo nessuno però, scheletro, però non è che tutte le telefonate le mettiamo in diretta. Se non hai niente da nascondere, no, rispondi. Ma non è che tutte le telefonate vanno messe in diretta, che Parenzo lo chiama Natale. Vive in un on air continuo. Sì. Dal Covid al sesso è uno al mangiare, è la sindrome del Plaza. Alle 18:30 inizia a dire: allora che ci mangiamo stasera? Cioè, è tutto ormai Edmondo da Teramo, e come non ha una vita? Ha una vita on air ormai. Edmondo da Teramo, dai. Mi senti? Ragazzi, allora, in Ungheria, aspetta un attimo, in Ungheria il Parlamento, già ieri l'ho fatto, ha cambiato la Costituzione, la famiglia è legale solo se etero. Fanno bene a non dargli soldi dall'Europa. Fanno bene a non padre dargli maschio, soldi dall'Europa. Padre maschio, sì, però adesso oggettivamente, uno sarà fuori sarà dalle regole possibile dell'Unione. No. Ma non lo so se adesso, perché non ho capito. Perché tu non puoi dire che la famiglia è solamente etero, non ho capito, sei obbligato a dire... Non puoi fare discriminazione. No, tu non puoi dire che la famiglia è dell'Unione Europea, non puoi fare discriminazione. Secondo te in Europa chi non adotta, chi non fa una legge, puoi per... fare leggi diverse, ma non puoi discriminare. Dunque noi che per una vita ma non abbiamo avuto, essere felice. No, io sono contro questo, io sono perché a favore. Tu io sono a favore. Dovresti essere contento, ma sono che a l'Europa favore promuove della i diritti. No, ma io sono a favore dovresti anche della libertà. No, attenzione. No, di andare indietro sui diritti. No, io sono a favore della libertà, cioè se il Parlamento dell'Ungheria. Cruciani a Verona. Se io sono, ricordo un Cruciani a Verona da quelli là. Certo, assolutamente. Ma io sono a favore della libertà, cioè dire se un paese legittimamente attraverso il proprio Parlamento Parlamento decide che la famiglia, tu puoi fare una, non di carcerare, ma non puoi discriminare, no, la discriminazione è un'altra cosa. Se tu puoi decidere in Parlamento che una famiglia è solamente quella tra uomo e donna, quello è una libertà che uno può fare, che uno si può prendere. Non ho capito qual è il problema, perché è discriminatoria, ma perché discriminatoria? Non ho capito, mica metti i gay, l'Europa carcere. Va avanti sui diritti anziché dietro, no? A chi dà fastidio, vabbè, quella? Ma a chi dà fastidio? Dove eravamo? Edmondo da Teramo, non dare me lo devi più dire diritti a me. A chi dà fastidio? Ma tu difendi l'Ungheria? No, io non sto difendendo quello che ha fatto l'Ungheria, sto difendendo il fatto che un paese può decidere come ma cazzo è vuole, ma fuori dalle regole europee. Ma questo non, beh, lo so, ma non Edmondo è che vieta a una coppia omosessuale di vivere insieme, esatto, ma esatto, quello, c'è, esatto, ma quello sarebbe ancora peggio. Edmondo, ma ci mancherebbe da altro. Caro Gottardo, ringraziare il tuo piccolo, sì, Dominus Crucianio, okay? Ma quello che c'entra, dai, su, per le posizioni che prendi tu sei insignificante, tu trovi attraverso le stronzate che dici, okay? Senti Edmondo, o vai al sodo, tu, o sei, vai al tu sodo. Devi ringraziare il tuo piccolo Dominus Cruciani, okay? Ma perché cosa? Quello. Non ho capito. Tu sei un terzo incomodo. Sai perché sono la zanzara? Perché siamo amanti. Siamo amanti, no, ma io, è per quello. Anche quando ti vedo, te lo spiego. Io inculo Cruciani tutti i venerdì sera ed è per quello che io poi faccio la zanzara. Sì, anche perché tu lì sei un terzo incomodo. Io mi dimetterei perché... Mi dimetto da cosa? E perché tu continui ad ascoltare questo programma allora? Perché continui ad ascoltare questo programma? Io continuo ad ascoltare questo programma fino a quando non ci sei tu che spari le stronzate, ok? Ma cosa ti dà fastidio esattamente? Vabbè, Edmondo, tu che sei un appassionato di zanzara, metti meglio il tuo telefono perché non si capisce un cazzo. Nicolò da Monza, vai Nicolò, dimmi. Dimmi Nicolò. Mi sentite? Sì, dimmi. Io vorrei andare contro Gottardo. Allora, sono aperte le gabbie stasera. Fatemi parlare. Innanzitutto è un uomo di merda, perché la gente è morta per parlare. La gente è morta per il corona e tu vai a dire uomo di merda, vai a dire che lo vuoi prendere. Ma io spero che tu la prossima volta che vai a trans devi prendere la sifilide, La sifilide a pranzo è molto difficile prendersela, limiti di prendere, sì, il COVID. La sifilide a pranzo, in ogni caso, è strano. Guarda, caro mio, che se tu guardi le statistiche del CTS, vedi che uno con le mie caratteristiche non si fa assolutamente niente statisticamente. Lui avrà avuto dei parenti morti, credo, di non essere terrorizzato da questa cosa? Da questa idea posso essere non terrorizzato? Posso essere sereno di fronte alla malattia che probabilmente non mi farebbe un cazzo? Ma nei gulag perché? Però ti posso dire che non sai combattere perché non sei ancora allenato al combattimento parenziano. Cioè tu dovessi fermarti un attimo e dire Nicolò, caro Nicolò, tu hai le pigne nel cervello oppure tu sei semplicemente un idiota. Te lo auguro, grazie. Guarda, io sto pregando San Gennaro che me lo faccia prendere per sopravvivere in faccia a te. In faccia a te e a tutti quelli che sono terrorizzati come Parenzo. Ma io non sono terrorizzato di niente, tanto che vengo a Padova sabato. Vergogna perché non ho paura. Vergogna perché non ho paura. Posso avere il diritto di non aver paura? Posso rivendicare questo diritto? Non posso. Cioè tu decidi cosa devo pensare io. Tu devi pensare devi decidere cosa devo pensare io. Dai, io non ho paura, Nicolò, del coronavirus. Alla mia età è legittimo non aver paura del coronavirus, va bene? Oh, Nicolò, non ho parole. Non sai cosa questo rispondere avrà, perché avrà, sei un cretino. No, avrà avuto un lutto in famiglia legato al COVID ed è sconvolto, ha ragione. Conosco una famiglia David, che ha tutti i genitori morti sconvolto, per il corona, appunto, vergogna. Quanti anni avevano? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? L'età media si allunga oggi, per fortuna, grazie a Dio. Merda! Ma che c'entra il caso singolo però, Nicolò? Cosa c'entra il caso singolo? Casi singoli, che vuol dire caso singolo? C'è gente che muore di tumore a 20 anni, allora... Cruciani, io ti voglio bene comunque. Marco da Palermo. Dimmi Marco, dimmi. Allora, io vorrei parlare un po' dei vaccini. Sì, di che cosa vorresti parlare? Allora, dei vaccini? No, io vi dico questo. Voi siete convinti che solo un 30% non si farà i vaccini. Io sono convinto che la percentuale sarà molto maggiore. Non lo so, non lo so, non lo so. Speriamo nessuno si fida di questo governo. Non lo so, ma non lo è il so. Governo che fa i vaccini, scusi però. No, non si fida. Non è delle, il governo che certifica i vaccini, sono i medici, gli scienziati, gli enti, no il governo. No, no Salvini o il Conte. Il problema è che i vaccini della Pfizer, nonché quello di Moderna, sono vaccini di nuova generazione, non sono stati mai provati. Ma è scusi, la prima volta che si usa il vaccino RNA. E gli effetti non li conosce nessuno. E allora Marco, conosce, e allora sono testate. Allora fermo, Marco sta dicendo ti fidi o non ti fidi, te lo fai o non te lo fai, questo è il punto. Non mi fido, vi posso assicurare che tutti, che molti ambienti della società non si fidano. Dunque, d'accordo, ma tu che fai? Tu che, sì, ma tu che cosa fai? Aspetterò quello AstraZeneca, se posso. Vabbè, aspetta quello di AstraZeneca, ma che cazzo ti devo dire? Aspetta quello là, ma che cosa ti devo dirti io? Fermi cioè, tutti, fermi. Tifoserie dei vaccini. La cosa incredibile. La zanzara. Le malcherite producono danni cerebrali irreversibili. Cioè, Parenzo ha il coraggio di dire a Fedez che è un coglione e fa lo spettacolo che dà 1.000 euro a un rider. Ma se lui è stato sputtanato sul sito di Just Eat che non dava neanche un euro di mancia, grazie, faceva la sorrisina, grazie, faceva vedere che va tutti i denti, tutti perfetti, come i ricchi di merda come lui, pezzo di merda, brutto stronzo, non dai neanche un euro di mancia ai rider e a nessuno, e poi dopo cos'è che fai? Dici che Fedez è uno stronzo, oh, per quanto a me Fedez faccia schifo, Poi Parenzo, inutile che me la guffi, tanto a me il Covid, mi faccio maroni. L'ha preso? Sì, ma mica solo a me, cioè qua tutti, cioè uno più in forma dell'altro, uno più in forma dell'altro. È inutile che metti sempre ancora quella paura, ormai l'abbiamo già capita, non è più come la prima ondata, che non si vedevano sti Covid, ormai ce lo siamo pigliati tutti, ma chi è che non se l'è pigliato? Io qua se non andavo in clinica per il ginocchio, non saltavo neanche fuori, giravo tranquillo col Covid, senza neanche accorgermene, come tutti, magari l'hai avuto pure te, pure tutta la tua famiglia. Maledetto, stai sempre a raccontare delle balle a far paura. Ma chi ti manda te? Faccelo sapere. Chi sono questi poteri forti che ti comandano? Maledetto Parenzo. Ragazzi, io questo rider non è il numero uno, cioè... Gli faccio tanti auguri, io. Solo tanti auguri di prontissima guarigione. Posso informare costui? Posso informare costui e tutti quelli che pensano come lui che sabato pomeriggio... Beh, no, grazie, grazie molte. ...di Padova, grazie dalle 17.30 con lo spettacolo ebreo. Meglio non... non sinagoga di Padova. Ecco, non so quanto saranno felici. No, ma anche perché non c'è, non si può entrare, perché è tutto contingentato. Quindi... Vabbè, possono aspettarti fuori non per applaudirti. È, diciamo, non comunque, è, diciamo... Comunque, vorrei dare un messaggio ai rider, diciamo. Qual è il messaggio tuo a rider, Parenzo? Qual è il tuo messaggio ai dei miei migliori e più sinceri auguri di pronta guarigione. Qualora dovesse guarire dal Covid, non si preoccupi che prenderà un'altra malattia, ma col cuore proprio, col cuore. Allora ragazzi, questa mattina mi sono svegliato leggermente tardi rispetto al solito, ma prima di me si sveglia di solito la signora Efe Ball. A un certo punto apro il telefonino la mattina. Nello stesso letto? No, no, nello stesso letto. Ah, ok, no, perché sai, raccontata così era un po' equivoca, No, no, no, nello stesso letto. Però mi alzo e trovo messaggio di Efe Ball. Dico, cazzo, è successo qualcosa di incredibile. Senti qua. Buongiorno Cruciani, vedo che stai ancora dormendo e va bene, quando ti svegli ascolti il mio messaggio e vedrai che ti riempirai di gioia. Allora, anch'io ci sto pensando un metodo cashback come il governo, con i miei clienti, come lo sai probabilmente per mezz'ora chiedo 100, da oggi in avanti tu sei un bel ragazzo dotato, mi permetti di girare un video mentre ci scopriamo per il mio canale di OnlyFans, ovvio che non ti prendo la faccia o ti do una mascherina. Sì. Una sciarpa per coprire il voto, il viso. Molto, sì. Però se mi permetti di girare un video con te, ovviamente se meriti, se sei un bel ragazzo, se sei dotato, se sei giovane, ti do subito 20 euro indietro. cashback. Tu dai 100, giro a 1000 e io ti do 20 euro indietro. O altrimenti ci sto pensando di fare un pacchetto di regalo aiuto come Fedez per 5 persone. Offro una scopata totalmente gratis, gratis. Basta che vanno nel mio profilo di Instagram, commentano tutti i miei post, lasciano il like e mi mandano le loro foto e scelgo questi 5 ragazzi belli, dotati, soprattutto giovani e palestrati, per con i barboni 5 pacchetti di regalo sesso gratis con 5 ragazzi giovani. Quindi un po' Fedez, un po' cashback, ecco la F, pronta per Natale. Ciao Cru, ti voglio bene. Però scusate ragazzi, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Che in realtà il cashback di FBAL potrebbe funzionare meglio del cashback del governo. In realtà sta funzionando quello del governo, in realtà. È una delle cose che funziona, mi pare. Allora, sono pronta a morire se qualcuno avrà l'ardire di ordinarmi alcunché. Eleonora Brigliadori, chi oggi gioca a fare Dio è veramente da fermare, ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione. Questa beveva l'urina, no? Sbaglio, ricordo male per caso. Altre cose, il cancro, anche altre cose. Era contro la chemioterapia, eccetera. Coronavirus è un complotto degli americani, non diverso da altre influenze. Sono pronta a morire, ma non farò il vaccino. C'è dentro Satana, distruggerà l'umanità. Sempre più lucida la signora Brigliadori. Non viene detto da nessun TG, beh, questo sì, certamente, da nessun giornale, per forza, e da nessuna rivista. Ma ci credo. È che la tecnologia satanica. Viene detto qua, però. Si chieda perché la signora Brigliadori c'è spazio qua. Si chiede perché. Dai, chiedi perché. Che è stata scoperta pochi anni fa, è entrata in questo nuovo vaccino che modifica profondamente la tecnica dei vaccini precedenti e che distruggerà il genoma umano. Beh. È la Brigliadori o padre Livio Fanzaga? Perché più o meno. Ritrovo alcune idee di Fanzaga. Sì, sì, Leonardo da Firenze, avanti tutta, dai. Sì, allora, io non c'ho né l'auricolare né il viva voce. Si sente benissimo, non avanti, mi rompete vai. I coglioni, va no, bene. Io ho chiamato perché oggi mi sono un po' scoppiate le palle, non se ne può più, va bene? Hanno finito ieri di romperci il cazzo con la storia di Maradona, oggi è venuta fuori la storia di San Gennaro. C'ho due coglioni che mi esplodono. Allora, voglio dire una cosa. Beh, scusa. Durante la discussione che c'è stata tra Mughini e Cosoli, Auriemma. Sì. Parentesi, poi ce n'è stata un'altra, tra Facci e Auriemma. Mamma mia, stupenda. Mamma Facci e Auriemma, Facci che viene insultato. Mentre scureggiavano dalla bocca tutte e due, Mughini ha tirato fuori un concetto interessante, cioè quello del meridionalismo assoluto. Allora? Che proviene soprattutto da Napoli, dai napoletani. Vabbè, allora, secondo cui vuoi tutto quello che passa da Napoli è meglio di tutto. Maradona era meglio, la pizza è meglio, il caffè è meglio, San Gennaro è meglio, Padre Pio è meglio. Sto cazzo, qualcuno mi deve spiegare perché Maradona è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. Ma chi se ne frega? Questo chi se ne frega? Questo chi se ne frega? È oggettivo questo. Perché ce l'hai con San Gennaro? Perché ce l'hai con San Gennaro adesso? Perché ce l'hai con San Gennaro? Mi sono rotto il cazzo stamattina. Ho acceso la televisione. Sì, io voglio sapere perché in un periodo come questo ci si deve fissare a parlare di queste cose qui. Ma che te ne frega, te ne leggerlo, che te ne frega? Perché interessa evidentemente Nunzio da Roma. Nunzio da Roma, vai Nunzio, dimmi. Dimmi Nunzio. Niente, Crucia, purtroppo è sempre la stessa storia. Sei un coglione. Perché? Che è successo? Che ho fatto? Perché? Che è successo? Allora, io ti parlo da napoletano, ma non napoletano fanatico. Pensa che neppure sapevo della questione del sangue di San Gennaro. E qual è il problema? Non ho capito. Perché tu credi a San Gennaro, sangue di San Gennaro, tutta la storia della cultura. Ma che c'entra la cultura con questa roba qua? Che c'entra? Questa è cultura, lo scioglimento del sangue di San Gennaro. Folklore è una cosa, però. Religioso, credi all'aspetto culturale della cosa. Lo scioglimento del sangue di San Gennaro. Io ho semplicemente detto che il divino Telma è uguale. Ma puttana, mi devi far parlare, però. È una bestemmia. Calma, molta calma. No, che calma. Io sono calmissimo. Io non credo a queste buffonate che accadano a Napoli o che accadano dove è Padre Pio, a Pietrelcina, che accadano in Albania, non mi interessa. A Međugorje non ci che penso che siano delle messiscene, delle buffonate. io non credo nell'esistenza di Allah, ma non vado vicino a un musulmano a prendere no, per il no, ma io sto Allah. Dicendo semplicemente che no, chi crede a questa storia piace, dello scioglimento del sangue piace, è come credere ora al divino Telma, è la stessa esatto, cosa. Ma è una bestemmia, è una bestemmia, ma ragazzi, allora, il divino Telma lo vedi, parlare. Lo tocchi, esiste. Cruciani, il sangue parlare. Di San Gennaro è una buffonata, Cruciani, dai ragazzi. Cruciani, mi fai parlare. Allora, che cosa vuoi dire? Non stai parlando. Nel momento in cui tu dici una cosa del genere, a prescindere dalla tua credenza, stai mancando di rispetto a delle ma persone non diciamo che hanno stronzate. Un allora uno non deve diciamo credere per forza al sangue di San Gennaro. Non devi credere per forza, devi dare, ma non puoi dire no, niente, non puoi dire una parola. Nessuno ti ha detto di non puoi credere, dire una parola, non si può dire una parola sul sangue. Rispettate, è intoccabile, il sangue di San Gennaro non si può toccare, non si può parlare del sangue di San Gennaro. Cruciani, mi fai parlare. Non è che se uno, scusami Nunzio, non è che se uno parla del sangue di San Gennaro, beh, in modo rispettoso, ma però chi l'ha non detto, in modo ma irrispettoso chi lo dice? Che un... perché ci sono dice... delle sensibilità di fedeli, scusa, qualcuno si perché può offendere giustamente, ma io ho perché detto semplicemente che il divino Telma e il sangue di San Gennaro sono la stessa perché cosa, ma è una bestemmia, non è vero? A me lo dici, guarda che io sull'Islam ho avuto posizioni molto radicali contro l'Islam, per cui di che stai parlando, dai, no, che dico cosa di che sto parlando, tu non hai rispetto per la cultura delle altre persone, ma io non ho rispetto per ce l'hai, semplicemente tu ne fai una questione di audience perché sai che questo audience porterà delle reazioni. Ma io audience, sì. Io audience, ma che c'entra? Porterà delle reazioni. Vabbè, è chiaro che ciao, poi il napoletano inevitabile, è pazzesco. Maria Di Nolfi, popolo della famiglia con noi, buonasera. Allora voglio capire se ha di nuovo tanti auguri incazzato. Di buon Natale e buone feste caro Mario, tanti auguri intanto. Ma che sempre se uno lo potrà festeggiare in Natale a caro casa Parezzo. Lo festeggia tranquillamente come certo. A casa, che vuol dire a casa? Non ho capito. A casa col panettone, perché se uno, se uno vuole andare in un posto a incontrare due persone, tre persone, no. Se uno vuole andare no, in un dipende, posto a incontrare il nonno persone, o sì. La nonna non ci può il andare, il nonno lo uccide, meglio tenerlo. A parte che tu non puoi uscire nemmeno di casa se questi fanno la zona rossa. Io voglio capire quanto. A me stanno rendendo impossibile andare a cena da mia madre vedova, anziana e sola. E questa mi sembra una cosa folle, sinceramente. Sembra qualcosa che attiene Se ci andrai subito dopo Natale, quella sera lì la nonna la sentirai, la mamma la sentirai in videochiamata e che capiterà. Una capita. Norma che mi vieta di andarci il 25 se ci posso andare il 26. No, ci andrai dopo per evitare. Ma se ci vai che... l'8 che differenza c'è? Non ho capito. Se ci vai l'8 gennaio, non ho capito. Qual è la differenza? Perché mia mamma è anziana, è vedova, ha perso il marito da poco, io sono l'unico figlio che gli è rimasto ed è un dolore per lei farla stare sola la notte di Natale. Uno la prende la distanza, prende però le distanze. Se da sola puoi andarci. È una dimensione di crudeltà. Se sta da sola, se puoi andare. Ma non autosufficiente. Ci puoi andare, se è solo in tu spieghimi una cosa, tutte queste norme qua che farebbero dell'Italia una zona rossa tra il 24... Ma poi oggi non ho capito, in pomeriggio il Senato votava l'allentamento delle misure per poi fare la richiusura... Sì, più o meno, siamo alla schizofrenia più totale, siamo alla schizofrenia. No, non l'hanno deciso ancora. Siamo a Hitler sotto... il dottore che gli dava la morfina e lo faceva sbroccare negli ultimi mesi dal bunker. Ma come non farei un paragone di quel tipo. Vedo una dimensione di crudeltà nelle norme che non considerano veramente le questioni proteggere più umane. Gli anziani è una questione di crudeltà adesso, proteggere le persone dal virus e diventare crudeltà. Cioè qui siamo al mondo al contrario. Ma oggi sta lì, il governo sta facendo un gran casino, siccome non hanno una linea dura, chiara, che vuol dire... Ma questo lo capisci, quando le norme diventano irrazionali e illogiche... Irrazionale la politica, giuste. Purtroppo. Ma perché parlavi di Hitler prima? Perché parlavi di Hitler? Non ho capito. Perché c'è questo sovraccarico di schizofrenia, sì, veramente hitleriana, perché c'è una dimensione dittatoriale, diciamoci la verità. Tu non puoi andare a trovare tua madre da sola la notte di Natale, c'è una dimensione dittatoriale, una questione del si genere. Vuole evitare più, che le persone creino situazioni totale. Pericolose. No, perché ragione... io mia madre la posso andare a trovare il 23, quindi quello che dice David è che io porterei il virus, che lo porto il 23. Sì, dai, su, ragazzi, si vuole invitare, diciamo, no, nella, scusami nella, David, la tua, nella quello che tu dici è una cazzata del, perché in Germania, nella tua amata Germania, norma, che ogni giorno ci fai due coglioni così sulla Germania. Ma no, io tutto mi sembra questo un non avviene da servire, ma non avviene, tu ti puoi ma spostare, diciamo così, in ti Germania, puoi spostare. Ma in Germania la Merkel addirittura ha detto di lasciare gli anziani e non andare dagli anziani. No, la Merkel è diverso, la Merkel comunque chiudono le attività commerciali. Sì, no, ma siamo d'accordo. Al di là, il governo indubbiamente fa norme contraddittorie. Su questo non c'è ombra di dubbio. Il problema qual è? Sì, il problema qual è? Che c'è un principio. Sì, benissimo. Avete ragione. Avete ragione. No, ma Hitler adesso lascia stare. Il problema è le norme sono sicuramente contraddittorie. Sicuramente, è evidente. Basta questo. Il principio che è alla base di tutto questo, qual è? Ma non c'è principio che è contraddittorio. Quello di evitare il più possibile che le persone si incontrino, fine. Non c'è altra discussione. Non lo sto salvando. Dico che secondo me sbagliano a fare avanti e indietro. Fai il cashback, hai fatto. Allora fai il cashback e mandi tutti nei centri commerciali a rincorrere il 10%. I centri commerciali sono chiusi il weekend perché hanno voluto anche lì potenziare il commercio. Ha sempre una parola buona col governo, non c'è niente da fare. Senti, no, ma che buona, ho detto che lo fanno. Ho detto che hanno fatto delle norme contraddittorie. Io ho detto che sto dicendoti che per me sono contraddittorie, dovevano decidere di chiudere, basta. Te però la sto voglio dicendo. Chiedere a Dinofi un'altra cosa, che è questa: in Ungheria è successa una cosa che ha fatto esplodere il mondo gay e non no, solo il mondo gay, il mondo allora, democratico. Io ho detto prima una cosa, Parenzo ha detto: ah, tu come fai a dire una cosa di questo tipo, sei contro i diritti? No, io ho detto che il Parlamento dell'Ungheria, io sono contro quel provvedimento, Mario lo sa, io sono a favore dell'adozione gay e sono a favore del matrimonio gay addirittura, però penso che sia legittimo che un paese sovrano come l'Ungheria attraverso che il Parlamento all'Unione Europea, ma però. Sì, ma lascia perdere sei deciso di appartenere no, c'è scritto un libro su quello, se tu hai deciso di appartenere all'Europa accetti quelli sono lo stato di diritto possa europeo, possa decidere che la famiglia legale è solamente quella tra uomo e donna e che l'adozione è contrario, può essere solamente in quel tipo di famiglia, è contrario. Scusate, fatemi informare David che quel provvedimento, cioè il no all'adozione gay e il no al matrimonio gay, pur approvato dall'Augusto Giuseppe Crociani, è lo stesso identico impianto giuridico che abbiamo in Italia. No, beh, in Italia no, scusami. L'adozione gay è vietata. Il provvedimento ungherese non dice solo è questo. È vietato il matrimonio sì. Omosessuale. Perché in Ungheria c'è l'una. Perché la Costituzione italiana, cara Davide, contiene la stessa identica definizione. Identica all'atletica. L'obiezione che tu la approveresti domani. Le norme dell'Ungheria di Orban le approveresti domani mattina tu? Ma sono già approvate, sono nella Costituzione della Repubblica Italiana. No, tu dici che la approveresti? No, c'è una piccola differenza. No, non c'è scritto che la famiglia può essere assolutamente. La famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio. Sì, ho capito, però non si specifica. Non si specifica uomo o donna. Non si specifica uomo o donna. Perché vabbè. C'è il matrimonio fra uomo e uomo in Italia, ti risulta? No, non c'è il matrimonio, c'è l'unione. C'è l'unione gay. C'è l'unione gay, infatti. Anche in Ungheria c'è. Anche in Ungheria c'è, devo dire. È identico, l'impianto giuridico ungherese. Assolutamente no. È identico all'impianto costituzionale italiano. Identico. Scusa, però quindi si ribadisce. Se volete contestare l'Ungheria, contestate la Costituzione repubblicana. Però articolo 29. Tu stai dicendo un'altra cosa. Scusami, la legge in Ungheria dice non un'altra cosa. Le leggi sulle adozioni che prevedono che bisogna essere regolarmente sposati. Anzi, ti dico di più, ancora più stringente la legge italiana. Perché devi essere sposato da 5 anni e devi sottoporti a un'altra fila, fatelo raccontare da chi deve adottare dei figli. Di fatto è un'altra cosa. È terrificante. Però scusami un attimo, tu vorresti mettere nella Costituzione italiana il divieto per le coppie omosessuali di adottare. L'articolo 29, non voglio il matrimonio omosessuale, non voglio l'adozione di gay, una cosa nota. Il popolo, la famiglia ne fa bandiera politica perché è solo elementi della Costituzione. Evito di ricordarti che il deputato di Orban faceva le orge con 25 ma uomini. Sì, evito di dirti che i difensori della famiglia ma che miseria umana, i tipici difensori della famiglia no, ma che omosessuale, il problema non è che lui era omosessuale, il problema è che siccome quel deputato odiava a tal punto se stesso gli altri, quello è il tema vero. Odiava talmente se stesso perché era un omosessuale che faceva. Scoperta l'ipocrisia da David Parenzo. No, ma quale ipocrisia? Ma qui siamo veramente oltre. Scusami, Mario, scusami un attimo, però il ministro. ministro della famiglia ungherese, tale Katalin Novak, ha detto anche che le donne devono smetterla di preoccuparsi. Sì, è una donna. Le donne devono smetterla di preoccuparsi di guadagnare quanto gli uomini a parità di lavoro e qualifica, e devono preoccuparsi in modo prioritario di mettere al mondo figli, essere buone madri e centro e motore della famiglia. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Ma che fuori dall'Europa, non rompere i coglioni. Io ho proposto il reddito di maternità, sono convinto che le donne debbano essere debbano avere in mano un diritto in più, scegliere se dedicarsi alla, ai figli e alla famiglia o dedicarsi al lavoro fuori casa. No, ma capito, ma tu sei d'accordo con questa frase qua del ministro della famiglia? Io sono convinto, bisogna è una frase reazionaria. Maternità. Bisogna pagare la maternità. Ma la maternità è già pagata, se uno c'ha un lavoro in più. Quella esiste già. Nel senso che la donna. No, ma la donna si deve preoccupare in modo prioritario di mettere. Euro al mese, sì. Tutti i mesi per 8 anni. Però, scusami. O anche il padre, se no. Può esserci il congedo di paternità. E perché non il congedo di paternità, ad esempio? Perché milioni di donne si consegnano a lavori che francamente non farebbero, sacrificando la famiglia e i figli. Ma scusami, nei paesi civili l'amministratore delegato di Zalando, hai visto che cosa ha fatto qualche giorno fa? No, ma appunto perché quello può farlo. Bravo, bravo, esatto. No, però scusa, l'amministratore delegato di Zalando non può essere un caso isolato. Esatto. Scusate, voglio capire una cosa. La frase che le donne devono preoccuparsi in modo prioritario di mettere a mondo i figli è vergognosa. Questa roba qua la condividi? Ma io penso che bisogna fare più figli, è una cosa che sì, ma le donne devono preoccuparsi in modo prioritario di questa cosa dipende un po' dalle donne, in effetti. Le donne devono fare figli. Ho capito, però le donne possono anche non voler fare. Che modello di società ho in testa? Un modello di società in cui la cellula fondamentale che si chiama famiglia, dove sono uomini e donne, si dedichi fondamentalmente alla rinascita di questo paese. Ma perché una famiglia? Ma perché scusa? Ma perché una famiglia? Non perché una famiglia? Ma se lavora la madre e il padre c'ha il congedo di paternità, dov'è il problema? Scusa, questo è un altro discorso. Il rapporto con la madre, no, di tutta evidenza. Vedi, lui invece no. Quello che è con la tua ultima. Lui è un reazionario, vero? Lui pensa che la morte è prevalente con tua moglie. Ma chi te l'ha detto a te? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Il congedo di paternità è un elemento di civiltà, invece. Certo, assolutamente fondamentale. Ma la donna, scusa, torniamo allora a un concetto espresso. Scusa, torniamo a quando un bambino è piccolo, sai benissimo che la dipendenza naturale dal corpo. Ma chi della l'ha madre detto che il padre non può allattarlo? Scusa, col biberon. No, il padre non può allattarlo. Il padre non può allattare il biberon. La biologia l'ha fatta così. Che dobbiamo fare? Il padre non può dare il biberon al bambino. Il padre non può dare il biberon al bambino. Sei cascato sulla biologia. Abbiamo capito che il padre. Io ho sempre dato il biberon ai miei figli. Ma sì, è una fase un po' più avanzata. No, anche a 3 mesi. Anche a 2 o 3 mesi. Gliel'ho sempre dato il biberon ai miei figli. E abbiamo capito che ha smesso di allattare. Mia figlia che a 2 anni ancora non sta dal. Sì, no, insomma, però scusami un attimo, torniamo a una vecchia cosa, diciamo a Dinolfiano, che è questa: la donna deve un po' dedicarsi all'uomo, la donna si deve un po' dedicare all'uomo, diciamo la verità. Ma la donna, come l'uomo si dedica alla donna, la donna si dedica all'uomo, no, però c'è questo. Il giochino verbale, come sai, il titolo d'agenzia non te lo faccio fare. No, ma non è questione di titolo. La dimensione familiare, se tu non ti dedichi al tuo padre, sì, vabbè, ma questo grazie al cazzo. Si dedica all'uomo, sì, anche la donna che si dedica all'uomo, non c'è niente di male. No, ma non sto dicendo che c'è qualcosa di male, però per te la cosa prioritaria della donna, della donna. Una famiglia non esiste. Senza una donna che ha voglia di tenerla su, una famiglia non esiste. Dunque, la donna che si dedica all'uomo vale di più di un uomo, cioè in una famiglia vale più la donna che si dedica all'uomo che l'uomo che si dedica alla donna. Diciamo. La classifica che ogni volta mi deve tirar via è assolutamente decisivo per la formazione di una famiglia che una donna voglia. Ma perché una famiglia? Io non ho mai. Tu non mi hai mai spiegato bene. Spiegamelo in 30 perché secondi. Perché la famiglia l'hai buttata in banca? Perché? No, perché la vogliamo tenere in piedi? Dobbiamo fare altre cose. Perché una famiglia non può essere fatta da due froci? Ma perché non può essere fatta da due froci una famiglia? Ma perché non fanno figli? Non l'hai presente questo altro problema della biologia? Ma mica solo fare figli e famiglia, però scusami. Ho capito, ma chi se ne frega? Aggiungi una famiglia a un'altra. Se una famiglia è fatta da due froci che si inculano, non capisco. Che tutto è famiglia, è come dire che niente lo è. Ma perché? Famiglia è una gli cosa affetti sono famiglia determinata dall'articolo 29 della Costituzione. Ma scusami, due donne che stanno insieme e sono una famiglia. Esatto. Fine. Sì, due persone che si vogliono bene, non sono una famiglia. Sono una famiglia nel senso latino del termine. Per lui sono una famiglia. Per lui non sono famiglia, ragazzi. Devono sposare per poter diventare una famiglia. Questo per l'ordinamento giuridico italiano. Scusami, la definizione di famiglia è nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e sono legati tra loro. Devo salutare Mario. Ciao Mario. Buon Natale, auguri ragazzi. Ciao. La Zanzara. Cruciani, Milano, gli Amorgagni, Parchetto e i vecchi che giocano a bocce. Intanto i nostri ragazzini stanno a casa per proteggere questi quattro stronzi. Diglielo a Covid Parenzo. Parenzo nipote di un questore in epoca fascista. Ah, allora possiamo dire camerata Parenzo, a noi! Davide, sono appena rientrato dalla Svizzera dove ho esercitato alcune lunghe sedute di pissing con alcune amiche del luogo e accendo la radio, sento il podcast e che cos'è che trovo? Te che stai a inveire contro questo, contro quello, con quella voce stridula, veramente fastidiosa. David, tu mi sei simpatico, ma forse Feltri ha ragione. Tu sei l'unico ebreo fascista che esista, però possiamo rimediare. Perché non accetti una bella lavata di capo? Naturalmente te la faccio io, fratello. A presto, ciao David! E viva il rider bolognese, numero uno assoluto, ragione Cruciani. Però purtroppo, trattandosi di effetti, qualora fossero effetti di tipo genetico, che si possono vedere solo nello spettro di un decennio, perché le modificazioni genetiche sono quelle che poi fanno venire le leucemie, le malattie oncologiche, quindi chi può verificare la presenza di un cambiamento genetico che effettivamente trasforma noi tutti in qualche modo in degli organismi geneticamente modificati. Tutto congiurerà, comprese leggi, ricatti, patentini, imposizioni, perché gli italiani si facciano il vaccino della Pfizer innanzitutto, perché è di una società americana ma che ha la sua base in Germania, perché la promessa alla Merkel è stata questa. Il grande accordo con la Merkel. Ormai quello delira, quindi. Impossibile. Il anche... Covid è un grande raffreddore. È impossibile intercettare un elemento per discutere, che è tutta una follia, quindi. È impossibile anche però razionalmente tu escludi, discutere. Però guarda, la cosa che mi fa impazzire è che tu escludi di principio che ci siano dei traffici, come dire, poco chiari. Degli effetti collaterali. No, in che senso? Non so, no, lascia perdere gli effetti collaterali dei vaccini, eccetera. Che ci siano, come dire, che non ci siano dei grandi interessi. Questa è una cosa che tu escludi interessi? In partenza. No, tutt'altro. Ci sono dei grandissimi interessi dietro tutto. Ma scusa, ma mi piccoli pare. Piccoli e grandi interessi dietro ogni cosa. Ma di cosa stiamo parlando? Anche ma la Zanzara c'è il tuo interesse. No, dire certe cose o non dire. Figuriamoci nella politica o nei vaccini. Io non ho un interesse personale mio, ma voglio dire, è chiaro che le aziende farmaceutiche non sono la comunità di Sant'Egidio, ma lo scopriamo adesso, ma meno male che ci sono, fanno gli interessi degli azionisti, fanno un prodotto che serve a tutti. E non è detto che questi interessi coincidano magari con la salute delle persone alcune volte, no? Ma diciamo che però fino ad oggi se non ci fossero stati i medicinali, dici una stronzata, perché fino ad oggi se non ci fossero state le case farmaceutiche coi loro brevetti sono andate avanti nella ricerca scientifica, tu probabilmente saresti dentro una cassa da morto. Parenzo, si potrebbero elencare decine ma di ora farmaci siete anche che contro dati, che venivano dati alle donne siete incinte contro la che poi causavano scientifica. Malformazioni, ma questo lo hai si è scoperto dopo anni, certo, ma è chiaro. Bisognerà ma la ricerca prudenti. Scientifica Crisanti, va avanti così. Non prendete Crisanti, le medicine allora. Crisanti non prendetele. Ha detto quello che ti fa arrapare, Crisanti, sì. Ha detto che lui sarebbe prudente prima di aver ma visto lui se lo farà? I dati. Se vabbè, quello vaccinarsi tutti, oppure ma quello no. Chiunque sa va a dire, chiunque. Meluzzi è un se grande raffreddore. Lo introduce e l'AIFA dice ok, io me lo faccio fare. Ma che sostanzialmente ha un grande raffreddore che, come ben si è visto, ha fatto morire la media dei morti fino ad ora di questi migliaia che vengono ogni giorno proposti di 82 anni, che ha una malattia per lo più terminale, per lo più oncologica. Ma è vero, però. Certo che se lei fa il test, il tampone del Covid a tutti i malati, a tutti i morti che trovano negli ospedali. Siccome in Italia muoiono 2000 persone al giorno e lei trova che di questi 2000 morti ce ne sono 300, 400 che sono positivi e lei attribuisce a questa positività la morte, il gioco è fatto. Il gioco è fatto qui, è oggettivo, eh. Cesare dalla provincia di Chieti, avanti tutto, dai. Un delirio, Bene, grazie. Sono in linea? Sì, dimmi. Purtroppo, un'ora e 45 dopo 15 anni che ascolto la Zanzara tutti i giorni, grazie. Cesare, che cazzo vuoi fare? È mica colpa mia, vai. Io dimmi. Sono malato di Zanzara. Dimmi Cesare, dimmi. Okay, vai, allora, dimmi. Una cosa velocissima. Sì. Allora, ho acceso la televisione verso le 18, c'era la D'Urso in onda con Cecchi Paone, Brossio, una medium... Sì. Che parlavano di San Gennaro. Stupendo. Allora vi dico come andrà a finire. Sì, dimmi. Arriverà Maradona dall'alto, palleggiando, tirerà un colpo fortissimo, si scioglierà il sangue. Auriemma griderà gol e Mughini attaccherà Napoli. C'è una persona che prima ha detto rispetto i napoletani su San Gennaro. Certo. Sì. La persona si chiama Covid Parenzo. Covid Parenzo, certo, rispetto chi ci crede. Porto rispetto a chi crede a altre cose diverse dalle mie. Scusami, chi crede? Chi crede allora che i vaccini sono una buffonata, non merita rispetto, invece merita rispetto chi crede al sangue di San Gennaro? Sai qual è la differenza? Che una cosa crea un danno oggettivo, come dire, all'universo civile, all'umanità. L'altra cosa non crea un danno a nessuno, perché l'altra cosa, la fede non crea un danno di per sé, che il vaccino fede, ma non è fede, no, voglio dire. Come si fa a dire che è fede quella se parola? Uno se dimmi, uno Cesare, beh, diglielo alla chiesa, dimmi, no, allora 30 secondi ogni sera dice è importante chi dice le cose, certo, dopo essersi diplomato al liceo classico Concetto Marchesi di Padova, si iscrive all'università della facoltà di giurisprudenza, ma abbandona ben presto, nemmeno presto, ben presto, gli studi giuridici per dedicarsi. Sì. Nel 2010 inizio la conferenza radiofonica. Vabbè, allora del programma fermo. Ho fatto un esame di stato che conta poco per fare il giornalista. Questa persona ogni sera definito spalla da Wikipedia. Ma cosa c'entra? Pontifica contro medici parlando di un argomento che non conosce. La solita cazzata, Cesare. Ciao. Ragazzi, io però tornerei sulla vicenda Napoli in un modo. No, diciamo a questo che sono costretto, ben pagato, a parlare con quel povero stronzo lì, tutto sommato. Io qualcosa della mia vita ho fatto, ho scritto qualche libro, ho superato qualche esame di stato per fare il giornalista. Quello stronzo. Ma sei rimasto umile? Umile mai, ma umile perché devo essere umile? Insomma, ho realizzato. Ma umile di cosa devo essere rimasto umile? Ho fatto la mia carriera, che allora, mi rompe i coglioni. Posso rivendicarlo. I napoletani si offendono sempre. Risentiamo questa cosa di faccia a Tikitaka, ti prego, mi fa emozionare. Sono stato investito di insulti perché i napoletani si offendono sempre. I napoletani che offendono una cosa che ci dà fare offendono sempre. C'è Auriemma che vuole rispondere a questo signore. Sempre ovunque. Auriemma, posso rispondere a questo signore? Io con Auriemma, voi Palumella, Facci, ma come vi permettete? Senti ancora. Io non mi posso mai offendere per quello. Ma io non ho capito come si permette. Offende te stesso. Uno per volta. Prima Auriemma. Come si permette? Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Uno per volta. Ma si permette di dire a me come mi permetto? Ma chi cacchio siete? Siete italiani, siete normali. Siete come gli arabi, vi offendete sempre. Maradona era un ciccione drogato. Ma quante generalizzazioni, così di come gli arabi. Senti questa roba numero uno, senti. Ma è un coglione. Sì, ma solo gli arabi hanno la vostra suscettibilità. Hanno offeso Napoli, ce l'hanno con i napoletani e il nord. Ha ragione, e offendono. Siete dei complessati. Ma che ragione. Abbiamo detto che Maradona è stato uno dei più grandi giocatori della storia. Ha smesso di giocare ed è diventato un esempio cattivo, un drogato, un ciccione, uno morto prima del tempo. scusami, adesso mi devi dire che cosa c'è di sbagliato. Beh, in quello una persona, che dice. Io neanche lo nomino. Cosa c'è di sbagliato? Una persona che era scomparsa dai radar. Ma lascia perdere per adesso le due cose personali. Auge, ha sparato personale, no, un giudizio. Ma non c'entra un cazzo, personale. Dai. Allora, la frase dico, che ha detto è perfetta. È uno che era scomparso dai radar e per ritornare sulla scenetta, manco sulla scena, sulla scenetta, questo morto di fama, ha detto questa stronzata e Mega Galattica. Ha avuto i suoi 2 minuti, adesso fa la vittima perché lo insultano, perché fa la vittima, cosa che io ad esempio non ho mai fatto quando i napoletani mi hanno insultato. Ma non ho capito, morto di fama perché ha detto quello che pensa su Maradona. È un povero morto di fama, è un povero morto di fama, perché pure ha detto quello che pensa su Maradona, non vuol dire nulla. È scomparso da qualunque proscenio televisivo, completamente. Non se lo cagava più nessuno, perché giustamente non invitava più nessuno in nessuna trasmissione. Maradona mediocre, drogato e ladro. Appunto, è finito sui giornali, ma neanche sui giornali, sui siti. Può essere piaciuto a tanti napoletani che l'hanno deificato, come altri giocatori non hanno deificato altri giocatori, ma come a Napoli si tende a fare, non per dei pregi ma anche per dei difetti, perché era uno scugnizzo. È chiaro. Nella vita era un mediocre, un drogato, ed era anche a suo modo ladro, come quando segnò col pugno contro l'Inghilterra. Ma io non ho capito, perché uno deve essere adesso minacciato, minacciato di querele, non so da chi, dall'avvocato di Maradona, altro, quello italiano là. Vabbè, se tu hai ma detto delle cosa? Cose offensive. Ma perché non era caso. Drogato? Lo diceva lui che era drogato. Non ho capito, ma dire la realtà, cioè il fatto che aveva dei difetti, a me non me ne frega niente di dirlo. Ha detto delle cose che mi sembrano assolutamente nulla, offensive e totalmente fuori luogo. Ah, è offensivo dire che era ciccione, non ho capito. Adesso è offensivo dire che era ciccione. Ma chi se ne frega? È offensivo dire che è drogato, che faceva uso di droghe. Ma ciccione mi pare sia abbastanza. Droghe. Ma ragazzi, ma che vuol dire? Ma se uno dice che si è rovinato la vita. È un poveretto. Gli hanno, qualche sito ha ripreso questa sua fregnacciata e arriva. Evviva. Fermi tutto. La zanzara. Quando la vagina cureggia significa che sai trombare, Cruciani. Diglielo a tutti quanti, a questi menomati che pensano solo al Covid. Ragazzi, la cureggia vaginale è poesia. Antonio da Firenze. Allora, intanto ragazzi, si è dimesso quello di Confindustria di Macerata, Guzzini. No, tu ti rendi conto? Ti rendi conto della che mondo siamo? Cioè nel mondo del politicamente mondo corretto, in cui, politicamente corretto mondo, che, cioè, quando uno si scusa e quello non che bastano giusto, nemmeno scusa. Le scuse, non bastano il nemmeno terrore, le scuse. Cioè. Io la frase, stato per le scuse, la frase era questa: se qualcuno morirà pazienza, ma secondo me diventa una situazione impossibile per tutti. Se qualcuno morirà pazienza, bisogna riaprire. Con i morti che ci sono stati, digli pazienza, sì, David, oggi, cioè, se oggi, io fossi il parente di una di quelle famiglie, se uno dicesse così, un po' mi girerebbero, no? David, oggi una persona che ha perso il lavoro a causa di questo lockdown mascherato si è suicidato, va bene? Ed è solo il primo di una lunga serie di persone che cederanno sicura, alla disperazione certo. procurata dalla chiusura per il lockdown. Saranno centinaia e non avranno 82 anni di media. Ragazzi, vogliamo capire in più qualcosa di più da questo cashback di Efe? Proviamo a chiamarla, dai, il turco. Secondo te come risponde il turco, Davide? Mamma mia. Risponde, cioè, mamma il turco. Mia, sicuramente è back. Risponde è back, sicuro, perché non c'ha mai niente da fare. Deve inventarsi delle cose nuove, come i saldi di fine stagione. Quelli fondi di magazzino, diamo via tutto a un euro. Andrea da Vercelli, vai Andrea, dimmi. Eccomi, sono in diretta? Sì, fino a prova contraria, ciao. Sì, sennò dove cazzo fino a prova sei? Contraria. Ciao Cruciani, grazie. Io Andrea, vi seguo forza, tantissimo. avanti, forza. Avanti, Gottardo, dove sei? Mi senti, Gottardo? Sì, eccolo. Sta qua, ecco, sta qua. Non hai fatto i complimenti per la trasmissione però, Andrea. Sì, devi completare l'opera, dai, Andrea. Complimenti alla trasmissione, sì, a Gottardo per nulla. Gottardo, vabbè, dai, bene. Come mai? Aspetta un secondo. 1 2 Non lo so se stasera c'è traffico stasera c'è qualche fa finta sta poveretta starà mangiando figurati c'è qualcuno che spinge cosa? Secondo me ma figurati magari sta c'è un tamponamento sta facendo il tampone ma figuriamoci ma neanche sotto tortura quella lì figurati ma Guarda che scopa lei, eh. Cioè, ma scopa... figuriamoci. Ma come no, scopa come una dannata. Ma veramente. Mezza matta, poveretta. Ma che c'entra mezza matta? Non è ma duro. È una matta, dai, ma non si può dare. Vabbè, Andrea, che volevi? Non ho capito. Volevo rispondere a Gottardo perché ha detto una cosa molto, molto pesante secondo me. Prima è? Ha detto che data l'età che ha può prendersi il diritto di non aver paura di prendere il Covid. Certo. Io dico, da cittadino, siccome pago regolarmente le tasse, mi starebbe veramente in anch'io. Culo che le mie tasse andassero a pagare le tue cure. Quindi guarda, ne ho se ti assumi 8.000, le responsabilità. 8.000 euro il mese scorso di tasse. Sì, sai? Ma quanto hai guadagnato? Beh, proporzionalmente, ma scusami, e allora cosa devo fare? Devo ammazzarmi perché ho pagato le tasse? No, le ho pagate anch'io. No, però e se mi ammalo, le tue mi curano. Responsabilità. Assumiti le tue responsabilità. Se non hai paura di prendere il Covid, non ho detto che vado in cerca, le cure mediche. Ho detto che vado in cerca senza mascherina. Ho detto che se mi venisse il Covid ne sarei contento perché potrei dimostrare molto probabilmente che non mi succede un cazzo. Ma la se non succede a te, però succede a altri. Però la succede ad altri. Che tu non hai studiato ritirandoti subito. Massimo Giannini è stato malissimo. Massimo Giannini è stato malissimo. Massimo Giannini è stato malissimo. Giannini ha 25 anni più di me. Cosa ne e sai della cartella clinica di un Giannini? Mio carissimo io ho 44 anni. Un mio carissimo amico di Sky. E non voglio avere paura. Della tua io età, non voglio ma avere nessuno paura. Ha paura. Io viaggio. Tu ce sto venendo a inizio di questa io sto dicendo che sei un coglione. Io faccio la mia vita normale prendendo le misure che mi dicono di prendere. Per mesi richiamate il turco. Ma se io sto venendo a Padova sabato, ma che dite? Lo vedi che alla al secondo certo, squillo, al secondo squillo, ecco. Stavo parlando con un ragazzo che mi chiedeva cosa fai con il Covid. Parlando, io sono asintomatica. Sì, al cellulare mi chiamavo. Appunto, lui. Sì, perché non fai, esatto, sopra il telefono sta. Sono asintomatico, ho spacchiato 20.000 casi, cosa mai mi succederà con il Covid? Sono sopravvissuta, sono qui intera. Beh, asintomatica, tu non fai mai tamponi, per esempio? Tamponi non mai fatto. Allora, mi hanno fatto diversi tamponi nel culo. Sì, ma questo un tampone sì. Ma pensa che era affinata la signora sempre. Ho capito, è stata tamponata. Ma pensa che era affinata che è la signora. Volte, ma tu non hai mai fatto un test? Da quando è iniziato? Non ho mai fatto un test. Mai. Beh, capito, però i tuoi clienti magari vogliono sapere, non è che ogni tanto fai un test. Guarda, una settimana fa ho fatto un cliente, allora tutti i miei clienti hanno fatto il test, visto che sono tutti sani, nessuno mai mi ha chiamato per dire mi sono ammalato grazie a te, quindi cazzo tuo, o dire che anche io sono sana, tutti i miei clienti fanno il ma test. Sana di testa famiglia. Non lo so. Ma tu sei un po' negazionista tu del Covid o no? Io credo che, io ti avevo detto già a marzo scorso quando mi avevi chiamato, ti avevo detto dopo 20.000 cazzi succhiati non mi capiterà mai niente. No, ma questo d'accordo, ma il Covid sei un po' gottardiana da questo punto di vista, cioè pensi che sia un io po'... Io credo che il Conte, il governo e tutti i big ci prendono in giro perché le cifre sono... Cioè, io mentre cammino con il cane, come adesso, vedo tutti quelli che anche non mi piacciono mica sono morti. Sono tutti vivi. Vabbè, pensa che vuol dire, tutti i nostri, allora vuol dire questo: nessuno dei nostri senatori a vita è morto. Hanno più di 80 anni e sono stati. Vuol dire che non è che muoiono tutti. Che stupidaggine. Voglio veramente no, ma certo che non muoiono tutti, no, ma che stupidaggine dici? Che sono morti più di 65.000 persone, ma è un politico. Ti pare normale? Ma cosa dici? Dice che non è mai morto un politico, non è morto un politico. Cosa vuol dire? Non è morto un politico. E quindi? È normale questo. Quindi vuol dire ma che è pieno di politici che si sono ammalati di Covid. Senti, che ma dici? Tu sei a favore dell'Ungheria? Allora, sei a favore della... Aspetta, è prima pieno di andare di politici che hanno preso il Covid. Allora ragazzi, io sono intero, ho lavorato, lavoro. Ma che lavorato? Fa il cazzo la mattina alla sera sta scena. Io lavoro. Allora scusami, se faccio niente, com'è possibile che per 4 anni appunto, bisogna scoprirlo. Ho un debito che vale più di un milione di euro con il tipo. Infatti è da capire perché. Il cashback, anche io faccio cashback. Ecco, questo è interessante, allora tu vuoi fare il cashback? Io voglio fare o il cashback o un dono come ha fatto Fedez. Sì, ma spieghiamo il cashback, come funzionerebbe. Allora, siccome anche il governo mette qualche paletta, no? Io dico, se sei dotato, se sei un bel ragazzo, se sei giovane, se hai la tartaruga, tu mi dai mi dai le cifre che ti chiedo, se mi permetti di girare un video per il mio canale di OnlyFans, ti restituisco subito 20 euro indietro. Cashback. Facciamo, cioè, non ho capito. Allora, se uno ti manda un video. No, ma che video? Deve venire a casa mia come cliente, non lo so, mi dà 100, 200, quelle che è, se è dotato, se hai la tartaruga, se è un bel ragazzo, se mi permetti di girare un video per il mio canale, ma questo di è buono, però. Gli do subito 20 euro indietro. Questo è buono, cashback, però. Da S. Guarda, questo è buono, cashback. Altrimenti come Fedez, voglio dire, trovo 5 ragazzi. Sì, ma dovresti scopare, però, uno che non ha i soldi. Dovresti scopare uno, un barbone. Se voglio fare cashback, e questo è il cashback mio. D'accordo. Va bene? Tu vieni a casa mia e mi dai 100 euro per mezz'ora, sei un bel ragazzo, mi permetti di girare un video, ti do 20 euro indietro. Sì. Se invece voglio fare un dono come ha fatto Fedez, mandatemi le vostre foto, andate sul mio profilo di Instagram, mettete like, commenti, allora? Fatevi vedere, scelgo 5 ragazzi belli e carini, faccio una scopata totalmente gratis come un regalo. Ho capito, però questi che qua Fedez ha fatto un dono a un rider, ha regalato 1000 euro a un rider, a un'impiegata. Ho capito, io invece, siccome non me ne frega niente di riders, anzi li odio. Come odi rider? Non ti fanno perché camminare sul marciapiede, questi cazzi di rider non ci fanno rider camminare sul marciapiede. Sono tutti sul marciapiede. Ci evado nella città, Google, ci evado nella città, Glovo, Just Eat, tutte cazzo, non c'è più spazio per camminare sul marciapiede. Rider. Sì, io odio riders, anche perché mentre il governo fa di tutto di più per questi riders, per più di 80.000 prostitute non hanno fatto un cazzo. E scusami, noi siamo prima, però i rider io sai, metterei a confronto di clienti, aspetta, metterei a confronto con noi siamo più importanti dei rider che ti portano un piatto di merda, sì, due alle geni a notte. Confronto un piatto di merda, ma come ti permetti, sta gente che lavora a differenza tua, gente che lavora, i rider quasi tutti a differenza, quasi tutti noi non ci evadiamo. Beh, oddio, le prostitute qualche marciapiede ogni tanto escort, ogni tanto, però a quelle ore non c'è nessuno che cammina. Tu cerca di camminare in pieno centro durante il giorno, vedi quante cazze di riders ci ma sono. Come ti permetti? Quella è gente che fa fatica e che lavora davvero. Sapete quanta gente li odia perché non ci fanno più camminare sul marciapiede? Ma i rider non li odia nessuno. Ma figurati. Io metterei a confronto Efe con i rider di Bologna, sarebbe stato un trust di cervello contro proprio i rider di Bologna. Prima dei rider ci sono le prostitute che aspettano il loro turno, hanno fatto troppo caos perché cosa? Probabilmente a Milano ci sono tutti questi malati perché grazie a questi rider ci prendono anche Covid. Scusami un attimo, cara Efe, ma tu a Natale se fanno il lockdown totale che fai? Te ne fotti? Anzi, i clienti verranno lo stesso? No, le videochiamate, Siri. Sì, però i clienti verranno lo stesso, anche col Covid verranno allora, lo stesso, anche col lockdown, farò, con la zona rossa. Io di sicuro faccio qualche cliente, quelli che abitano a Milano, figuriamoci. Te ne sbatti, coglione, te ne sbatti il cazzo. E vengono a farsi scopare o a farmi scopare. Scusa, ma il pisello più lungo che hai preso in vita tua, quanto è stato? Quanti centimetri era? Stato di un ragazzo italiano molto bello all'epoca, aveva forse 24-25 reali. Di centimetri. Sì, era un bellissimo. Qual era la circonferenza? Scusami, Gottardo, la circonferenza quale potrebbe essere? 24 per eccetera, dato che sei un esperto. Allora, della le proporzioni era più grossa del mio braccio. 7 centimetri. La cosa rara è che normalmente i cazzi grossi non vengono mai durissimi, invece lui aveva proprio durissimo, mi ha spaccato. Ecco perché io non becco il Covid. Cioè, dopo tutto questo ti pare che prendo Covid? Ma oddio, adesso questo dare la relazione tra prendere comunque i cazzi e il Covid è piuttosto vaga. Secondo te Conte cosa avrebbe pensato per il mio cashback? Mi avrebbe forse il tuo funzionerà di più. Ciao Efe, a presto. Ciao. La Zanzara. David, non fare come i politici, i ristori arriveranno, i soldi arriveranno. Cazzo, non arrivano, i commercianti vengono chiusi e i soldi non arrivano. Mettiteli in testa, non arrivano. PS, quando arrivano sono due spicci. una... E voi vi offendete perché non era un grandissimo giocatore, era Dio. Ha un'ossessione nei confronti di Napoli. Ma chi e ma dei sono napoletani. Andati in vacanza mi a Napoli non questa so perché parlare devi far cazzo di Il problema è che tu hai qualche problema vero. Tu non guardare ai difetti di Maradona, guardati allo specchio e forse prenoterai una visita importante. È una battuta, adesso noi applaudiamo perché su. Ma tu veramente sei ossessionato. Ma lo posso rispondere a... E poi sai cosa fa? Non avendo Palumella, fai vedere. Era un sentiamo Palumella, sentiamo Palumella. Voglio sapere di cosa sono fatti. Loro sono così a Napoli. No, si calmi, si calmi. Ma cerca di dire. Un attimo, parlate tre per volta. Come uomo e come calciatore, forse non ha capito. Lei non è in grado di parlare di Maradona. Io non sono lei in grado. Sa cosa ha fatto Maradona. Ma Maradona perché? Ha fatto del bene. Ha giocato su un campo di fango che lei non l'avrebbe fatto nemmeno. Lo so, San Paolo era cominciato male. Senta, io voglio solo lei dire si deve vergognare di parlare male di Maradona. Una persona non è ha San Paolo, io me ne fo Acerra. Scusa, no, no, era adesso lo basta. Di adesso basta. Perché veramente bene, è una questione di principio. Bene. Che si offendono i napoletani, io me ne frego. No. È per questo che sono scattati tanto. Ma non parlo di tutti i napoletani. Non esistono i napoletani. Auriemma, Auriemma, per chiudere. Adesso l'hai detto, veramente adesso l'hai detto. Quello che pensi, che però avevamo già capito. Immediatamente un PSO. Andiamo al calcio. Dopo quello che ho ascoltato. Andare in televisione. Auriemma, se parla Auriemma non è che devono parlare gli altri. Incredibile ragazzi, incredibile. No, ma vedi, si è anche contraddetto, perché a un certo punto dice non esistono i napoletani. Beh, certo, ha ragione, mentre ragione. Due minuti prima ha detto siete come gli islamici, ma come no, se ma fossero siete una quelli categoria. Che si offendono, ragazzi, quelli che è si un offendono. Coglione. Quelli ha detto che si delle cose da veramente imbecilli proprio, ma da, cosa da morto detto? Di cosa fama. Cosa ha detto? No, scusa, ma ti non ripeto, capito. Si era contraddetto, ascoltalo bene, io no, l'ho ascoltato capito, bene. Quelli che si offendono. Ha detto non esistono le categorie quelli che si offendono. E ha detto i musulmani, siete come i musulmani. I musulmani che si offendono, che si offendono. Categorie quando invece. Insulti Maometto, dai, che c'entra? Dai. No, no, scusa, dire i musulmani. No, no, caro, ma ha sì, fatto musulmani... la generalizzazione sui musulmani. Vabbè. Poi, siccome sui napoletani non gli faceva comodo, ha cambiato. È un ipocrita, poveretto. È un poveretto, dai. Claudio da Milano. Se l'erano vai. Dimenticati tutti, e improvvisamente è ritornato. Claudio da Milano, vai. Volevo solo dire una cosa, Maradona ha mai passato il pallone all'avversario per far fare gol contro la sua squadra? Quel marciume che c'era nello scandalo dello scommesso non è mai stato coinvolto. Ma che c'entra questo adesso? No, c'entra, c'entra, c'entra perché scusa. Fanno tutti i puritani. Ma nessuno... E poi nel calcio c'erano tanti, tanti, non e chi, tutti. Chi nega? E chi nega? Chi lo nega? E chi lo nega? Ma chi lo nega? Chi lo nega? Dei marci. E allora? Maradona e allora? È stato un uomo che aveva un'etica, una dignità. E ma cosa c'entra? La dignità di che cosa? In che cosa? Non che ho capito. Cioè che non ha mai, già, no, tutte queste critiche che fa che ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Io non ora, scatto contro Maradona, ma nessuno scatta contro Maradona. Si analizza il fenomeno sociale della santificazione di Maradona. Vabbè, ciao, ciao. Mario da Pisa, vai, Mario poi, da Pisa. Lui si scaglia contro la santificazione di Maradona, sì. Lui che ha fatto la santificazione di Bettino Craxi. Ma di che Mario cazzo stiamo Pisa, parlando, dai. Mario ragazzi? Da Pisa, dai. Ma ridicolo. Allora, la santificazione di Craxi ha fatto. E adesso sta parlando, dice che di Maradona. David Parenzo sta ma parlando dai, di facci, lo scusi, come certo, tu fai. Lo sta dicendo certo, il signor David uno, Parenzo. Uno che ha fatto la santificazione di Bettino Craxi e adesso è contro la santificazione di Maradona. Ma stia Mario zitto da che da fa Pisa, più dai. Bella figura, va, porai. Non dico neanche come si chiama perché Mario da Pisa. Poraccio. Questo è David Parenzo sì, che sta certo, parlando di Filippo sì. Facci, ma non Mario so chi da Pisa. Sia, vai, neanche, Mario. Non ho idea. Io invece volevo parlare di Covid, no? Siccome ho sentito un signore lì che ha detto che lo voleva prendere, vuol provare, vuol fare l'eroe, allora io sono stato uno di quei fortunati che, ha colto, che mi ha preso e mi ha colpito duro. Allora... Ora sono qui a telefonare dopo un mese. Se vuole quel signore, glielo spiego mese che cosa... sta bene, il che vuol dire che dopo un mese sta bene, che è quello diciamo che vuole dimostrare anch'io. Ma prima ci sono i, diciamo... le conseguenze, poi arrivano i postumi. Certo. Aspetta un attimo, certo. Perché forse non ha ben capito cosa fa questa roba. questa non è una semplice influenza, perché io non mi sono mai soffiato il naso in 15 giorni, però ti posso dire sono insecchito 12 kg in 15 giorni. Ma ti posso dire che in 15 tutti giorni indeboliti, sono mai stato al bagno. Si sentono tutti indeboliti, Mario, però scusami, non ho 15 giorni senza andare al bagno. Non ho la tua cartella clinica, caro Mario, certo. Non ho la cartella clinica. Sono in tanti a dire questo, chi ha avuto il Covid dice che è rimasto indebolito per mesi e mesi. Sono in tanti, una cazzata. È una roulette russa, mesi e mesi. È una roulette russa. Sì, come dopo un mese chiami la zanzara. E dopo un mese vabbè, chiami che la zanzara. Per fortuna sta meglio. O respiri o parli. Tutte e due le cose insieme, certo. Non le puoi fare. No, ma io. Ma però è stato intubato. È stato intubato. Poi hanno messo la ventilazione artificiale. No, aspetta, sì, Mario, Mario sta dicendo un'altra cosa. Mario sta dicendo che è stata malissimo senza essere intubata. Che dire di volersi prendere il Covid, come dice Gottardo, è una follia, giusto, ma Mario? Ma non me lo tolgo dalle palle. Che cosa vuol dire? Me lo tolgo dalle palle. Te non hai idea di cosa. Tu non hai idea cosa vuol dire. Quanti anni hai, Mario? Quanti anni hai, Mario? 55. E dopo un mese stai bene. Io ne ho 11 meno di te. Ascolta, se prendi la cronaca locale in Tirreno, la nazione, leggerai. Se prendi la cronaca locale, sti cazzi, in qualsiasi città muore la gente a 30 anni di tumore, allora cosa devo fare? Con le mani sui coglioni tutto il tempo. Ascolta, io ti auguro ma di quello è evitabile. Ma che discorso non è? Hai idea di cosa ti fa questa roba con la febbre a 37 e mezzo? Fatemi far ridere la taratura degli strumenti. Non ti alzi più dal letto, non ce la fai nemmeno a muovere. Vabbè, ma ragazzi, 37 e mezzo. Che prova a stare 15 giorni. Sono tutti matti quelli che raccontano delle stati malissimo? Sono tutti matti? Tutti? Sì, ma non si possono prendere i casi singoli. Ce ne sono altri. Ancora con questi casi singoli. Certo, su chi ha avuto un effetto minore è ovvio, ma la maggior parte delle persone. Questa è venuto un cazzo. Questo a 55 anni gli è venuta praticamente una sindrome mestruale e si lamenta dopo un mese al telefono alla zanzara. Ascolta, ma ti hanno almeno ricoverato? Io non sento nulla. Ti hanno almeno ricoverato? Lo sai perché non sono andato a ricoverare? Lo sai come funziona il sistema? Ma sei rimasto addirittura a casa? Ma cosa rompi con la saturazione a 92? Ho fatto tutto il protocollo, ho fatto le punture. Ma a 92 non sei da ricovero neanche per idea. A 92? A chi da 94 dovresti andare direttamente in ospedale? No, neanche per idea. No, il mio medico, per fortuna, siccome sapeva. Ciao, Mario, non sei neanche andato in ospedale. Ciao, Mario, ciao, e ciao. Parli come se avessi scalato l'Everest. Ma che pippe ci sono in giro? Wait for me. Sei stato male. Una pippa totale. Allora, io ho un sogno nella mia vita. Io ho un sogno. Vedere il signor David Parenzo truccato. Ma per carità. Truccato. Sottomesso. Ma per carità. Da una mistress MILF, ripeto, ho un sogno nella mia vita. Penso che purtroppo vedere lo David Parenzo truccato me lo può realizzare questo sogno. Sì. Una mistress MILF sarebbe come chiedere a Facci di ballare male di Bettino Craxi. Credo che non sia possibile. Diciamo. Allora, una mistress MILF sui 50 anni che si chiama Chimera, signora Chimera. Ciao amica mia, come stai? Ciao, sto bene. Allora, dimmi subito molto una cosa, com'è che cambieresti la sessualità parenziana, diciamo, una sessualità di vita parenziana? Immagina di avere Parenzo, signor Parenzo. Ma lei di cosa si occupa intanto? Cioè, al di là di questo. Fa la mistress. No, vabbè, ma al di là di questo, di cosa vive? Avrà una professione. La mistress è di professione, di questo fa. Avrà un mestiere in mano. Certo che è un mestiere, assolutamente. Lei lo fa anche perché ama questa cosa qui. C'è un albo, l'ordine dei mestieri. Certo, è una passione, una vocazione. Una vocazione. Allora, tu come trasformeresti la sessualità parenziana? In ma che modo, non ha bisogno e non vuole essere trasformata, però. Grazie. Del no, vabbè, è ovvio che uno deve essere portato, non è che lo puoi fare su un individuo. Scusi, che signora. Brava, esatto. Quindi io non sono portato, grazie. Chiudiamo qua la conversazione. Allora prendiamo un individuo che è portato. Esatto, allora prendiamo Gottardo, ad esempio. Con un individuo che è più portato. La mistress. Cosa mi farebbe la mistress? Mistress, cosa mi farebbe? Cosa mi farebbe mistress? Lei è anche sorda? Adesso io non ti ho davanti fisicamente e faccio fatica a relazionarmi con te. Sono 1,87, peso 97 kg, ho i baffi. È uno molto... non sei proprio femminilizzante tu. No, non è molto, è molto più femminilizzante, cioè, Parenzo. Sarebbe una cosa un po' ingombrante già, esatto, vestirti tutto, toccarti. Parenzo è più un minuto, Parenzo è un po' più un minuto, sì, dunque sarebbe, sono sarebbe adatto all'opera, diciamo. Sono purtroppo impossibilitato. Ma tu di solito come lo fai? L'età media delle persone che vengono da te a farsi sottomettere? No, ci sono di tutte le età, perché la fantasia che può avere nella mente umana è qualsiasi età, non, la non fantasia, hai età, la follia, capito? Direi più che la fantasia. No, sono trasgressioni, non è una cosa difficile. Cioè, se uno gli piace vestirsi da donna essere femminilizzato, non è una cosa grave, è una cosa che fa parte del piacere. Ma per carità, ma uno potrebbe anche votare Orban, non c'è nessun problema. Cara Chimera, tu sei esperta nel far cambiare l'identità sessuale degli uomini. Questo è il punto. No, aiutarli a trovare la loro identità. Io non voglio essere aiutato da nessuno, grazie, non me ne frega niente. Stai zitto, non lo puoi sapere questa cosa qua. Te lo dico io. Spesso dicono così le persone che poi vogliono farsi cambiare, carità, un po' i connotati, ma figuriamoci, oppure scoprire una nuova identità sessuale, ma per esempio tu sei esperta per esempio nell'inculare le persone con lo strapon, mi sembra pure di capire, no? Mamma mia, sì, abbastanza, è una cosa che faccio da sempre, guarda. Pensa da che sempre. Festa, siamo tutti un po' bisessuali alla fine, in fondo, diciamo la verità, nel nostro essere è sempre così, poi è ovvio che c'è quello che riesce a tirar fuori questa natura, sì, c'è quello che lo tiene lì tutta la vita, infatti, fa parte comunque dell'essere umano, cioè la persona più anziana che ti è capitata per esempio che insomma si è fatta un po' sottomettere, ma sui 60 anni, non di più, e perché dopo lì diventano già poi il reparto geriatrico dopo, cioè. Che si è fatto fare questo qua di 70 anni? Ma si fa femminilizzare e poi tipo? Una tutina tutta trasparente in pizzo, sì. E poi dopo ho voluto prendere un po' di strafon perché voleva provare, a lui gli piaceva e quindi probabilmente l'ha sempre fatto. Che dimensioni, la prima volta, che dimensioni deve prendere uno? No, certo, la prima volta bisogna diametro. Andarci cauti. Prima fai una visita. Capito, fai una visita, sì. In base alla visita che fai, visita. Ti rendi conto anche analmente se una persona è dilatata o no. Chi la fa la visita anale? La faccio io, eh. Alla visita anale. Cosa fa la visita? Ma chi sa la visita? Per forza, come faccio a sapere io se questo qui è portato o no? Perché poi c'è, lo vedi, cioè lo senti più che. Come lo senti? Con le dita? Come lo senti? No, con le mani, ti metti il guantino, vai dentro e vedi. Ma sì, la visita anale in preparazione dello strapon, qual è il problema? Non ho capito. La visita anale, dovresti fare anche tu. Ma la visita anale, signora, ma io farò la prostata tra qualche anno, ma per carità. Sì, ma è vero che bisogna usare anche dei dilatatori di silicone chirurgico? Ma ci sono chi li usa e chi non li usa. Io non li usa lei non li usa. Ho sempre fatto, cioè, uso i dilatatori, ma uso i vibratori. I vibratori. Cioè, quelli che comunque si chiamano strap-on. Ecco, ma il colore ha una sua importanza, il colore del vibratore. Ma diciamo che quello nero è più ricercato. E come mai? Non lo so, nelle foto quando metti magari lo strappon nero, oh, che bello mistress, che bello, sì, vabbè. Si vede che il nero è collegato al fatto che comunque, sai, le persone un po' di colore hanno comunque sempre questo pene molto sta importante. Sta su tutto il nero poi. E poi va bene su tutto il nero, quindi sta bene. Ecco, ma io la cosa che voglio capire, hai fatto un corso tu per esempio per fare, che ne so, il trucco? Lo impari con l'esperienza. Il trucco, come truccare? Ho sempre frequentato eventi, ci sono sempre stati gli eventi nel nostro settore, come ci sono eventi su altre cose. Signora Chimera. Ecco, ma gli uomini che sono sottomessi, che vengono a farsi sottomettere, a farsi inculare, la maggior parte vogliono quello. Tu non è che usi altre cose, no? Cioè la tua pratica. Ma dipende, poi ci sono. Io lavoro molto sui feticisti, ovviamente. Tipo? Quelli che gli piacciono il tacco spillo, chi gli piace la calza, chi gli piace il piede, chi gli piace l'adorazione del piede, cioè sono cose bello, è una voce registrata, non è la mia, ma che dite? Ma ti pare che dica bene? Per esempio il pissing lo fai tu, lo pratichi il pissing? Sì, anche quello sì. Però, signora, signora mistress, ma è vero che quelli che adorano i piedi tipo Cruciani sono più portati poi a prenderlo in culo? Non è vero, perché ci sono la parecchia... No, ci sono parecchi feticisti che non si ritengono neanche dei sottomessi, sono solo feticisti, fanno parte del mondo fandom. Ecco, ma tu queste persone fanno parte del mondo slave. Ecco, queste persone qua che vengono da te come clienti, semplicemente perché hanno la passione di farsi curare, sono persone che tu ritieni malate? Malattia, ragazzi. No. Qui, a parte che io non ho mai giudicato nessuno, disturbate, perché comunque potremmo sono dire un po' disturbate, potremmo dirlo, un po' disturbate, forse, no? No. No, anche ci sono anche quelli un po' disturbati. Di chi è la colpa? Ma probabilmente di un'infanzia, vissuta terribilmente. Il porno pure ha la sua importanza, il porno? Il porno no, il porno fa parte più di una cultura, secondo me. Comunque, perché ragazzi, comunque l'uomo è più portato comunque ad avere delle, come posso dirvi, che cosa? Delle esperienze diverse. L'uomo è proprio curioso, ha voglia di fare delle cose diverse, l'uomo lo vuole fare con due donne, l'uomo vuole andare di qua, vuole andare però di io là, la cosa che voglio capire è questa: secondo me Parenzo è pronto. Posso dire, cara mistress, secondo me Parenzo è pronto allo strapone e soprattutto alla visita, alla visita. Allora sì, ci possiamo fare un pensierino, perché no? Ma per carità, signora cara, ma assolutamente prima la visita anale. Ma io non ho ancora fatto l'esame della prostata proprio per paura di quella roba lì. Non ti preoccupare, ci si arriva piano. Ma perché c'ha paura, scusami, è una cosa normalissima. Ha paura di farsi aprire il culo. L'esame della prostata. Ma scusate se sono così, scusate. Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.